signor Richard, my name is Ricardo Alfonso Linea. Grazie. sta sigillando, sì, no, un attimino solo che se vado là nella cameretta loro, e voglio vedere un po' come sta procedendo la situazione. Cosa c'è attaccato qua? Ventolino sotto, sento. Aspetta. centrale nucleare attaccata, quando entri in qualche centrale elettrica con ventilatori, raffreddatori, estrattori di coso. E quando la prima volta recente con più tomaccio nello spermo, intanto stavo scaricando delle cosettine, niente di particolare, non c'era una pubblicata la parte altra verità, semmai era dopo lo c'è un ventolone, quindi si sentiva, adesso spengo anche il PC e così siamo a posto, è morta lì qui Montalcini, 103 anni, cazzo già era ora, mi ammanesco la mezzo del male, chissà se ci arrivo io alla pensione, hai molta prima pagina su internet, che è morta, sono morta pazienza, 103 anni, cosa vuoi? Ci vorremmo arrivare noi, sani come è arrivata lei, dico, lucida a collettare, no, l'ho visto anche qua su Tiscali in prima pagina, sulle notizie, cioè vabbè, bisogna sempre, tutti gli altri dovremmo abbassare, diciamo lei è andata un po' più avanti della media, dai, faccia l'anima sua. E un'altra cosa, l'altro giorno, chi è questo Ferdinando Radiamatore, lo conosci qua? Chi è questo? Ferdinando Radiamatore. Ferdinando, non mi ricordo, comunque continuamente l'ho sentito, ma non mi ricordo la sigla, perché? No, Sassarese. Coordinando. Mi conoscevo che sì. Il suo lavoro non è coordinando, ma si fa chiamare con nominativo. Vabbè, se vuoi ti posso dare nominativo. No, l'altro giorno stavo ascoltando, c'era una... chiamiamolo un contest, dai. E hanno collegato tutte le protezioni civili di tutta Italia. La cosa ridicola, a me mi meraviglia questo, infatti quando capita parlo anche con Marco di questo discorso di propagazione, cioè di segnale. Allora, c'era un capo maglia che ha collegato tutte le protezioni civili d'Italia. E a Sassari c'era la protezione civile di Sassari, questo Ferdinando c'è il nominativo, se vuoi te lo posso anche dare per averne conferma. E mi sembra l'ultima lettera siano Whisky Sierra, se non sbaglio, può essere. Sì. Non dire, ho già capito chi è, ho detto, va bene, Ferdinando, lo chiamiamo con diminutivo, va bene, a me cosa è successo, ciao Vanni. No, ti stavo spiegando. Allora, io con una semplice antenna, con un 440, un'antenna Mantova, sono riuscito a coprire delle stazioni che loro con antenne sicuramente molto più performanti non riuscivano a sentire, proprio non li sentivano. Quello del capomaglia qua arrivava a 9 in banda laterale, 4.000, 3.000, aspetta, neanche me la ricordo, l'ho segnata, perché c'ho un logo di stazione dove mi scrivo tutto. E c'erano segnali che loro non riuscivano a coprire, chiamavano questi e non riuscivano a sentirli. Cioè, ecco là, dice, guarda che sta chiamando Latina, guarda che sta chiamando Grossetta, loro non li sentivano. Quello che mi meraviglia, io dico, con una mantova, un'antenna non accordata su quella banda lì, riuscivo a coprire dei segnali, delle stazioni che loro non sentivano. Tutta l'Italia ha collegato, da Bolzano, Livorno, Trieste, Latina, Spezia, tutto. E loro molti segnali non li sentivano. Io quasi tutti partivano da Santiago Sette, qualcuno arrivava anche 9.10, 9.15 i segnali, c'era questa protezione civile di Sassari, addirittura arrivava meno dalla prefettura di Sassari, arrivava meno di quello del capomaglia che era, mi sembra, Latina, che quello arrivava a 9.15. C'è la mia, lo sappiamo qual è il problema, perché anche è stata mandata in prefettura una CPC della Raimo, non si viene a circa Vanni. No, dallo stile lungo e quindi succede questo. Non c'entra niente, non fare questi commenti perché stai sbagliando, perché vedi come hai detto tu è più facile sentire quelli più distanti che quelli più vicini, poi a 3.600 o a 7.000 per capirsi tutto molto chiaramente, non fare le scuse della 27 perché non c'entra niente. Ci sono delle ore che senti quelli più lontani e non quelli più vicini, solo per questo. Niente, sono entrato, ti ho sentito Claudio, domani mattina sono a Sassari, domani mattina, ma verso le 11 sarò sicuramente qua. Se devi passare, passa quello da lì, perché devo fare un intervento a Sassari. Vanni, se non hai domani sarà la perfetta, ti ho detto che non avevi difetto, io non sono di quelli malati che devo stare appeso giorno e notte, la donna è già pronta e tarata, c'è una e una da tutte le parti, quindi no, non ho problemi, devo solo agganciare il rotore e attaccare i fili come me li dai tu, no? Non ho fretta, Vanni, assolutamente negativo, fai tutto quello che devi fare, perché domani mattina sono al lavoro, non so se mi trattengo al lavoro. solo da agganciare il rotolo tra i quattro valori e nel fare un atto e tirare su, ma tirare su vuol dire che ci metto 5 minuti, no? Neanche 10, 5 minuti, perché tutto è pronto, Vanni, quindi vai tranquillo, fai quello che devi fare. Ti ho detto, se tu ti trattini verso quella ora lì sono a casa, perché ti ho detto, domani non sono rialzato a fare un intervento, ma è velocissimo, ci vuole più andare e tornare che a fare quello che devo fare, se non sono flessibile per capirci, però non posso fare a meno e domani mattina verso le 6:30 spero di riuscire a mettermi in moto e se rialzarsi, 9:30, 10, dai, comunque giusto per, sono a quell'ora lì, 10:30, penso. Sono qui a casa perché sta crescendo, anche perché è un po' caduto il paese, ma ora mi accorgo che sto tirando tutto e ne vado a mangiare, va bene, comunque quando capirai per l'altro capirai come funziona l'essere, riesci anche a capire cosa sto dicendo. Diversamente non fare questo discorso che non si sentiva, perché c'è tutta un'altra storia sotto. Certo, se c'è più lungo riesci a sentire quelli che sono molto più lontani, infatti tutta Italia tu la senti e non senti di quello che sta, per capirci come è fatta, ecco. Ci sono delle ore che senti quelle più vicine e quelle più lontano, capisco perché, ma non c'è da niente. Va bene, dai, ritorni qua, niente, ciao a tutti. Un attimino, no? Volevo fare un'osservazione soltanto, io non mi riferivo a quello di Sassari, ma io comunque buonasera, diciamo noi che abbia grandissima esperienza, ma qualcosina riesco a capire il discorso dell'angolo di radiazione, riflessioni e cose del genere. La cosa che parlavo io, il discorso delle antenne, che quelli che stavano utilizzando, facendo questo contest, diciamo questo collegamento, probabilmente avevano delle antenne dedicate per quelle bande di frequenza. Io con una Mantova 1, un'antenna accordata per la banda cittadina della 27, riuscivo a sentire dei segnali che loro non ascoltavano, solo quello. Poi naturalmente se l'angolo di radiazione è più basso riesce a pompare giù, magari quello di Sassari che ce l'ha attaccato, Sassari comunque l'ascoltavo. L'unico che non ha ascoltato, che probabilmente non stava trasmettendo perché non ha sentito nessuno, era Olbia, però ha ascoltato tutta l'Italia, al contrario di loro, che molti corrispondenti non li sentivano. Quello che sto dicendo che mi meraviglia è che io ascoltavo molti più corrispondenti di loro, diciamo il capomaglia che aveva una posizione probabilmente strategica, mi immagino a Roma, che era vicino a Latina, ha detto, di zona diciamo centrale d'Italia, molte stazioni non le ascoltavano e altri li riferivano, guarda che stanno trasmettendo, io le ascoltavo, era solo questo il discorso. Poi naturalmente l'essere è la cosa di più complicata che esiste, per dire, non segue nessuna logica, era solo questo l'appunto. Avanti il manino. Diciamo, a te cosa succede anche un'altra cosa, come sono, diciamo che sono verticali di fuori, non è che abbiano grandi antenne perché sono le prefetture. Quindi non pensare che ci siano grandi direttive o chissà che cosa, ci sono solo un apparato e basta, niente potenza, non un massimo 100 watt, il 99% questo. Ma io non sai cosa succede, che le manutenzioni vengono fatte, insomma, per quelle che sono, noi abbiamo avuto difficoltà a Sassari per fare la manutenzione a Sassari, penso un po' perché loro dovrebbero chiamare i tecnici e così via, invece vabbè è tutta una parte che non sto lì a spiegarti, anche perché non dovrei neanche. Però è così, non farti caso perché molte volte succede anche questo, non è detto che magari in una posizione migliore quella al tenno, la Mantova 1 o la 5 comunque, va bene anche il 40, se c'è la fondatore lo sai benissimo. Perché è un'antenna alta, poi si viene la serie, se tu li studi la bobina, amico. Le linee della bobina va ancora meglio anche, perché c'è gente che l'ha modificata. Per dirti che comunque è anche un'ultima antenna, e va bene, c'è gente che trasmette anche in 20, in 40 con la mano. Però è dovuto a questo, bisogna capire, non tutte sono altri tipi, ma peggio è come tutte le mani di verde, capito? È così tutto questo. Ma non stai proprio di sì, ci può essere così. Non ti preoccupano, se ce la fa, allora voglio di due, ti si mette qui, ma già non fa, non fa, ma è in terra, ti fanno lavorando. Una bella giornata, ci sono le bastioni, fanno uno spettacolo, non mi ricordo. Ma fortiglia, però. Dì, e me ne va la fettiglia, e io volevo tutto da lì, c'è la casa, c'è tutto, non ho problemi, veniamo lì, quindi volevo, sì, non vuol dire. dire tranquillo, come non vado sempre in un negozio. Vabbè, tutti fatti, tutto. Aspetta, così. La sorella, di Mari, o Salerno, ma mi chiamavo a Vizzo, di Rogerio, no? Non c'è vero, però io là invece un po' più di rilassamento invece, anzi sono più contento. No, le posso ritornare a te, tipo c'è un po' per te, che ma... Io mi parti fumante, poi metto è casino, va, capito? Ma vediamo, io l'anno scorso a Porto, adesso sono entrato tranquillamente, strada libera, nessun patto in mezzo al bar, insomma, andava bene. Vediamo quest'anno com'è la situazione. Tanto per fare in buona compagnia. Ieri mi sono graffalato, me parlando di via Leonardo da Vinci, che è possibile, che non è che sia una metropoli, nessuno conosceva via Leonardo da Vinci, io sapevo la zona più o meno, stavo cercando una persona, e sapevo la zona vicino al cimitero, via, come si chiama quell'altra via, quell'altra in poca, ma questo sono andato a zona, quella lì sono andato e l'ho trovata subito. Ma via Leonardo da Vinci, tu a qualsiasi parte entri, se passi da là, Sono belli, ma a parte le cose, sono belli, non so che.

Pronto? Però voi no, cioè, o fai una cosa o fai l'altra, eh. Ho deciso di togliere anche tutti i baracchini proprio per quello. Quante pare devo lasciare? Un 440, un 140, ferma, e sono alla fine del mondo, vanno benissimo per fare che cosa? Per stare lì a HF, in otto, anche se ti metti 4, manco antenna, c'è figura, non mi interessa. Non mi è mai interessato, sicuramente. Quest'anno ho deciso di montare un'antenna un po' più seria, e quindi ho preferito fare le cose un po' dai, fatte bene, tutto lì, se no, te lo sai, io sono sempre rimasto qua e qua, voglio continuare a rimanere, non ti credo che mi sta tirando più di tanto, anche se metto l'antenna, se faccio, quando sento qualcuno faccio due chiacchiere, ma non è che mi interessi più di tanto. Poi ti volevo anche fare di quella cosa che mi ha dato, quello specie di walkie talkie vecchio, antico. Quello militare. Siccome che non te ne sei neanche accorto tu, quella specie di coso che c'è in giro, quella fascia che c'è in giro. Cos'è? Io pensavo fosse la chiusura ermetica, quello lì l'ho svitato, era un'antenna piatta, e diventa un'antenna, si chiama l'antenna telescopica, quella va tutto in giro nell'apparato. E si attacca a quella specie di polo dove si attacca l'antenna, al connettore. Figurati, ma come già vivo io pensavo che era rotta, ma l'antenna non c'è. No, è quella lì l'antenna, l'hai visto, sembra, c'è presente, cosa cacchio di, quelli per legare i pallet, quelle, come si chiama, quelle a fare in plastica, c'è presente, quelle fasce in plastica nere, quella lì è il metallo, noi usavamo le sonde per pulire i radiatori, le chiamavamo quelle lì, e lo stacchi, si apre tutto in giro, diventa tipo un metro di quelli estendibili, c'è presente, lo stesso principio, morbido così, flessibile, lo prendi e lo attacchi, poi l'ho tolto, dove c'è, l'ho aperto all'interno, dove c'erano batterie, c'è l'alimentazione, e benzina, ho fatto bene dentro. Infatti volevo provare ad alimentare per vedere su che frequenza lavora quello. Ma aspetta, ma quello grande a collare o quello piccolino? Come si chiama? Io sono piccolo, più portatile. No, sto parlando di quello grande, quello grosso a collare. Ah, ho capito. Ma il microfono va bene quello che ho trovato io, quella palla? Quello non l'ho visto perché c'ha diverse connessioni, però sicuramente può andar bene lo stesso. Però puoi parlare anche direttamente senza microfono quello, perché ho visto ci sono alimentazioni, c'è un sacco di... Dentro addirittura c'è un circuitino in carta, c'è una specie, non so se tu l'hai aperto dentro, c'è una specie di schema elettrico, dove ci sono tutti i collegamenti per attaccare il microfono esterno, l'alimentazione esterna, un sacco di roba. C'è il fatto, vabbè, le norme militari, quegli apparati lì devono rispettare delle normative, per cui c'hanno, anche chi deve lavorare deve avere modo di sapere cosa, dove toccare. No, bello, aspetta quello che ti porto adesso. Adesso te ne porto uno, veicolare con il suo microfono, le sue cuffie, di un elicottero. Ma di cosa stiamo parlando? Di trasmettitore o di cosa? Come si chiama il microfono? Lì c'è trasmettitore col microfono e le cuffie sue di un elicottero militare, capito? Della marina militare. La roba guerra, periodo bellico successivo. Ma diciamo che è una via di mezzo, perché è abbastanza semplice, boh, a me dice, non molto moderno comunque. Abbastanza semplice, non è grande, è come un. Vai, ti posso dire, è come un armatore, una cosa del genere, un po' più grandetto, più alto, più con tutte le posizioni, ma quello funziona, quello funziona perché dovrebbe trasmettere nelle bande aeree, che dovrebbe essere trasmettere eccetera dai 130 in cui, mi pare, una cosa del genere. Mi ha ordinato l'altro giorno un'antenna, infatti la volevo vedere, vabbè l'ho su rivista, un'antenna militare che fa una logo periodica enorme, però questa fa dagli 80 MHz ai 160 MHz, e vabbè, se c'è internet la puoi vedere, c'è un negozio, si chiama Vintage, non Vintage, Radio Surplus, e vende di tutto, vedi cosa c'è questo qua, cose allucinanti. Ho pagato a 40 euro, tu vedi questa antenna, tutta la verde militare, pronta a piazza, la puoi montare, c'è la verticale che è un risultato, è enorme, me la daranno smontata, dovrebbe arrivare in settimana, quando arriva te la faccio vedere, perché poi la puoi usare anche per le V. Sì, boh, dopo periodi che sì, dopo periodi che si possono usare anche per le VHF, infatti quelle che c'era la stazione lì di Ormero, aveva dopo periodi che era una cosa enorme, enorme, e trasmettevano sia in HF che in VHF. E vabbè, ma no, io vabbè, non è che ci abbia molta pazienza, non mi interessa più di tanto, mi interessa che quando mi dicono passa lì, io passo e trasmetto, mi sentono, poi l'importante è quello, capito? Per me è stato sempre quello l'importante. Puoi passare in 50, sì, posso passare, puoi passare lì, posso passare, no, io frequente e scoperte non ne ho. Poi che arrivi bene, che arrivi male, sicuramente arrivo sempre bene. Se non che con grandi segnaloni, perché uso sempre la potenza della radio, adesso ho già attrezzato l'amplificatore, quindi qualcosa cambierà sicuramente, però l'importante è farsi sentire, non è quello il problema, capite? L'importante è capire e sapere che c'è tutte le frequenze disponibili. E tieni conto che io con l'antenna che ho attualmente, non quella che devo montare, quella che ho attualmente, ho girato il mondo, c'ho dei country molto interessanti, detti da Marco. Sono tranquillissimo, dei country molto molto interessanti, a 11.000, 12.000, anche a 15.000 km. E poi vediamo se continuerò, vorrò arrivare a riuscire a fare almeno di XC, ma sarà molto difficile. Comunque 80 ce li ho già confermati, dei 176, mi pare 177, 80 ce li ho già confermati. Poi bisogna continuare piano piano, già ci metteremo e faremo, ma per niente che non è che abbia questa grande passione, mi piace più entrare, salutare gli amici che conosco e poi niente, come faccio qua a me fare due chiacchiere a livello locale, non me la fotti nulla. Ma se trovi gente interessante va bene in tutte le parti, l'importante è che ci sia gente che ti diano che ti faccia piacere ascoltare gli argomenti, poi può essere in banda laterale, in CB, in AM, in FM oppure in altre frequenze, non c'è valuta. Io posso andare solo qua, per cui non è che mi posso muovere più di tanto, però ascolto anche da altre parti, molte volte mi sposto, come ho fatto l'altro giorno, ero in 40 reti, stavo ascoltando, era molto interessante tutto il discorso, alla fine hanno letto il messaggio del Presidente della Repubblica e del Ministro della Protezione Civile, adesso non ricordo, che è una cosa carina, diciamo, una cosa anche una bella soddisfazione per chi ha partecipato a questo discorso qua. Soltanto, però era molto carino, ha dato i complimenti, ha fatto i complimenti a tutte le persone, i radioamatori della Protezione Civile, eccetera, eccetera. Già sono cose belle da ascoltare, da fare. No, ma ti ripeto, quando mi chiama, c'è un altro messaggio per dire, guarda, stamattina che era 14.285 ho acceso, ho chiamato, ciao dimmi, 5.9 tranquillo, se me la frutta me la c'è in cravatta, quello non è che durante la filare arrivare 5.9 io già mi interessa, c'è il provato in antenna più che sufficiente, l'importante è appunto che succeda quello, quando ti dicono o ti chiamano devi fare una prova, a me va bene così, non è che, ma non ho mai avuto questa, io sono allenatore da 93, non ho mai avuto questa grandissima passione, eppure la posizione c'ero di montare antenne, nessuno me ne ha speso parecchi, però non ho mai avuto questa grande passione di montare antenne mazzolunti, che di fare cose particolari, perché proprio non ho quella passione di stare in HF, capito? Mi piace, ti ripeto, che mi chiamano, rispondo e va bene così, per me va benissimo così, però non ho questa grande passione come c'è Marco, Walter, capito, non mi interessa, è una cosa che non mi è mai interessata, mi piace seguire, vedere, fare, ma non è così interessante per me avere grandi cose, l'importante è sentirsi pure. Insomma, questa antenna che ho comprato l'ho già provata, caspita, una camionata, l'ho provata, solo puntata a nord e già ho visto i segnali in ricezione, sono quasi il doppio. Quindi adesso una volta che la monto bene, la faccio girare, mi accontento anche di quello, no? Gli agi, ha sempre funzionato bene, non è a livello di altre antenne, ma a me non mi interessa, non è quello il problema, l'importante è che mi senta, non mi faccia sentire poi. È simile a quella che c'è tu, mi va bene, un altro elemento così e mi forse c'è il boom leggermente più grande e c'è il kit dei 40, no? L'ho piazzata, ho piazzata uno e uno, e ho detto attratti, senza aiuto nessuno, mi ha dato l'input di Marco, ma la sono già preparata, adesso Vanino mi deve dare la vottura che me l'ha tutto sistemato e finiamo il lavoro, si abbiglia le luci. Sì, no, Marco, cioè, è bravo, è venuto qualche settimana fa, diciamo una settimana fa, gli avevo chiesto, sempre disponibilissimo, infatti lui ci avrà solo da parte mia avrà solo dei vantaggi, io avrò, diciamo, è un piacere, diciamo, scambiarci le idee, quello che posso dare io, ho visto, è stato gentilissimo, mi ha mandato l'email con due email, mi ha mandato col progetto di quell'antenna che le avevo chiesto, gli abbiamo dato le misure, è venuto in officina, le ha dato un boom, la misura che ci avevo io, mi ha detto con questo affare ci puoi far stare questi elementi qua, ha mandato tutto il progetto, è fatto troppo in gamba, poi molto preparato sulle antenne, è molto, gli puoi chiedere qualunque cosa e ti sa rispondere senza tentennare, diciamo una persona in gamba per quello, poi me lo confermi anche tu, quando hai avuto problemi ti ha sempre dato qualche consiglio, qualche dritto. Sì, Marco mi ha insegnato tantissime cose, noi ci conosciamo dai tempi di quando parlavamo solo il 27, mi ha dato una grande mano, un grande aiuto in tantissime cose, quindi non c'è per nessuno, io ho sempre detto da parte mia, poi ognuno si può vantare di quello che vuole, ma deve dimostrarlo. Marco quando dice le cose le mette in atto, sono quelle, non si discute. Io gli ho detto dove levarmi questa antenna, ho detto stai attento perché ci può essere questo problema. Quando è arrivata, siamo sentiti, l'ho messa giù a terra, mi ha detto misura, il direttore, ok, misura, il direttore, ok, va bene, accorcio di tanto, accorcio, provala, l'ho provato uno dei stazionari, 10, 15, 20, nonostante abbia il kit dei 40, da tutte le parti uno dei stazionari, è bravissimo, non c'è da fare. Io magari ci avrei messo più tempo per capire, per fare, anche se l'antenna è molto semplice, però sai, bisogna seguire le cose ben fatte. E la stessa cosa con questo riporto. Questo riporto lui ha girato il mondo, c'era da un'altra vice all'altro, non ce l'ha nessuno questo riporto, perché la correlazione orizzontale è una direttiva vera e propria, peccato che non possa girare, perché filare, ma è una direttiva vera e propria, perché c'ha i quattro lati praticamente radianti, quindi no, c'è il direttore dei 20, dei 10, dei 15, dei 40, perciò no, i riflettori sono fatti in tubo in polietilene, costruito lui, ma ti dico che io l'ho montata e anche lì la stessa cosa, ho seguito le sue direttive, sollevala 2 metri dal piano dal petto, metti il palo centrale in alluminio, battonaci il ferro, il polietilene eccetera, l'ho messo, non c'è niente da fare, leggermente a 45 gradi, neanche 35 gradi, per avere le punte libere, e adesso qua io non ho tenuto la direttiva, la tiro su 4 metri da una parte e 4 metri dall'altra, perché voglio vedere quali sono le differenze tra un'antenna e l'altra. E va bene così. E ci divertiamo così, vabbè, batti la mossa io, ma ci vai a maggio? E sempre che la facciano, io mi auguro che la facciano la cosa. Quella di ottobre non volevo andare a fare brutte figure perché non avevo studiato già, scusa Fla, se avessi avuto un po' più di coso, di preparazione probabilmente ci sarei andato e probabilmente non volevo essere presuntuoso, forse sarei anche passato, perché una volta mi ha fottuto perché per una fesseria, perché non lo so, vabbè dai, purtroppo c'è anche un po' la fortuna, vabbè, se c'è possibilità probabilmente riesco, cercherò di andarci, dai. No, tornando al discorso di Marco, c'ha una grande preparazione e poi purtroppo non è una persona presuntuosa, è quello importante, fa anche piacere ascoltare, perché c'è troppa gente, ho sentito qua, non dico in queste bande, anche o in queste bande e anche in altre bande c'è troppa presunzione, troppa convinzione di essere il Dio supremo, invece non funziona così l'elettronica. Devi essere anche un pochettino più umile, accettare le discussioni e i confronti. Lui, ho visto una persona che ascolta anche, chiede informazioni, ho visto che anche lui si aggiorna. Sì, stavamo parlando proprio di questo da poco, capito? La presunzione, aspetta che la spengo completamente, la vuoi credere che non me ne ha funzionato. Ecco qua, tutto spento. La presunzione bisogna lasciarla da parte a volte, capito? Perché uno che ha 40 anni di esperienza alle spalle non deve essere lì che sta a cincischiare con nessuno. Quindi se uno poi pensa di essere chissà chi, vai avanti, fatelo, non stare lì a rompere le palle a nessuno, capito? Però la presunzione è una cosa molto brutta in questo qui. Io non sono né avanti né indietro a nessuno, quello che so fare metto in atto, quello che non so fare chiedo, non ho mai avuto vergogna, però avere un po' di presunzione non guasta se uno chiaramente è sicuro di quello che sta facendo, ma se uno non è sicuro e devi fare una cosa, ti dicono, ti danno un consiglio, fai così e puoi fare il modo tuo e non va bene, allora sono problemi tuoi. Io queste cose le ho sempre seguite, anche perché sono nato in mezzo a grandi, ma dico grandi e sottolineo grandi radioamatori, grandi tecnici, nel senso che io sono da ragazzino in radio, quindi mi è sempre piaciuto questo hobby, ho sempre seguito le direttive che mi hanno dato i grandi. E quel poco che mi hanno insegnato, quando è capitato l'ho messo a correre, adesso non me lo sono tenuto per me, capito? Adesso non è più così, Roberto. No, hai detto benissimo, poi uno che sa quelle cose, perché tu sei specialista in certe cose, lo metti, i tuoi frutti li metti a disposizione degli altri, quella non è presunzione, io presunzione parlo quando uno si mette a schifare, a opinare su delle altre cose di altre persone, perché non gli piace quella cosa, deve dire per forza la sua, quello non va bene. Qua è capitato di sentire tante persone, molte volte criticano o fanno delle critiche solo per il discorso di criticare, senza avere nessuna cognizione in materia. Visto per esperienza personale, te lo dico, di tantissime cose, non parliamo di particolari radio, parliamo di altri generi di argomenti, molte persone si mettono a dire delle cose che non sanno manco di cosa stanno parlando. Sì, vabbè, di quello siamo vecchi, vabbè, non è un problema quello lì, però io continuo a ribadire che a me non mi deve insegnare niente nessuno, io non sono geloso di nessuno, vado avanti per la mia strada, ti ripeto, ribadisco che quando una cosa non la so, ho sempre chiesto, ma chiesto a persone che mi possono garantire ciò che è la risposta definitiva e soprattutto la risposta giusta, capito? Quindi non ho mai avuto problemi, però non sono di quelle persone che prendo lezioni da nessuno, io mi metto faccio le cose che piacciono a me, non quelle che piacciono agli altri. Quelle che piacciono agli altri ognuno se le fa a casa sua, non di certo a casa mia. Ti ripeto, io con Marco ho un bellissimo rapporto, ma alla grande veramente, ma con tutti di quella sezione lì, di quella categoria lì, come Walter, come Vannino è preparatissimo in tantissime cose. E quando gli ho chiesto qualcosa l'ha sempre messo in atto, l'ha fatto, io ce l'ho disparato con questo dottore, avremmo chiesto anche a Fabrizio se me lo controllava, però non mi ha dato nessuna risposta, quindi l'ho portato da Vannino e anche lui le mani loro, l'ha provato, l'ha messo a posto, dottore, non c'è niente, c'era una roba di praticamente di commutazione, l'ha smontato e direttamente lì l'hanno aperto, hanno invertito l'ingranaggio, quindi quando faceva il giro si bloccava, adesso l'ha messo a posto Vannino. E già lì ho recuperato 400 euro, che non sono poche, non vivo di grandi soldi, ma vivo di un misero stipendio che mi dà l'azienda e i soldi che devono correre da altre parti, non di certo devono correre su queste stronzate. E quindi vabbè, ho recuperato quello, tanto ma ce l'ho, sono altro quello lì e continuo a divertirmi come mi sono divertito, ma dico sempre chiedendo a chi le cose le sa sicuramente più di me. Quella non è presunzione, quello è andare a chiedere a fare chi queste cose le ha usate prima di me, perché ho rotturi, contro il box, non ne ho mai usato, sono sempre andato con le finali, ho sempre lavorato e così, giusto per divertirmi, capito? Giusto, così, poi ognuno poi si specializza su quegli argomenti, sulle cose diciamo che gli piacciono di più. Certamente, se devo chiedere informazioni su apparati trasmettenti Kenwood, tu puoi dire la tua, le conosci tutti quanti, eccetera, eccetera. Poi, se voglio chiedere le antenne, c'è Marco. Poi, se voglio parlare di altri argomenti, ognuno si specializza sulle cose, sarebbe troppo vacuo specializzarsi su tante cose. Cosa volevo dire? Poco fa hai parlato di 14 MHz, ci va qualcuno per te là? Sì, beh, 14 mega sono i 20 metri, io anche stamattina ero a 14.285, poi adesso sono a 14.200, sto aspettando la chiamata di un amico, dobbiamo fare delle prove anche lì, 20 metri, 14, no? Lì sono i 20 metri, non c'è problema, di solito si bazzica molto in 40, in 7 mega, però anche 14 mega già è trafficato, poi soprattutto in questo periodo c'è un po' di propagazione, va bene. Questo poi c'è un'altra cosa, mi sono dimenticato, ma è il radio, adesso un'altra fatta, c'è la raniera che gli è caduto l'MC60, ha rotto il rivestimento della capsula, l'ha rimontato, usciva tutto papelinato, tutto cupo, tutto attorno a quel ritto della capsula, secondo me mai il rivestimento è rotto, e quel rivestimento serve proprio per adeguare la modulazione su quel microfono, visto che non ha tonalità, rivestilo con una spugna, un nastro, lo infila dentro, l'ha fatto ed è perfetto come questo, esce benissimo, cose che io ho visto fare, cose che mi hanno detto, quindi ammetto, ripeto, non me ne insegna niente nessuno, al mio piccolo io cosa so fare, lo so fare, quello non so fare lo chiedo, capito? Lo chiedo, come i Kenwood io me li ho sempre riparati io, poi c'è Fabrizio che appunto si è comprato un po' di attrezzatura e se li fa lui, ma io non devo chiedere niente a nessuno, è che un periodo, è che mi è calata moltissimo la vista e quindi un po' ho mollato, ma prima mi riportavano da tutta la Sardegna a sistemare a gratis, poi non ne ho fatto più perché mi sono rotto le palle. Mentre in coso, nei 6 metri ci va qualcuno, perché io normalmente se voglio ascoltare posso scendere giù dai 40 agli 80 metri, però con le bande lì 50 MHz e cose del genere, caiete, non ho mai sentito nessuno. Beh, i 6 metri già ce li ho, e funzionano anche bene i miei. Anche lì c'ho l'antenna filare che mi ha fatto Antonio e anche con quella quando chiamo mi rispondono tutti alla grande. Sono propenso più avanti, adesso non me ne frega niente, ma più avanti anche lì di mettere un'antenna direttiva per i 6 metri, visto che c'è l'altro dottore, singola, me la facciamo girare, però per queste parte già sono a posto io, c'ho l'antenna VHF, 9 elementi sempre della IAGI, l'anno scorso ho fatto dei bellissimi collegamenti e poi quando c'è la direttiva a proiezione orizzontale il VHF non c'è Cristo, funziona molto bene. Abbiamo parlato con Walter e chi c'era? Antonio e Bio a Cagliari, girata, ha trovato gira a sud, guarda c'è Cagliari girato 5-5, Cagliari perfetto, ma argomenti disincubati mio, vabbè, non con kilowatt, con 2,71, 25 watt, adesso che ho 7.400 nel VHF, sto aspettando solo la propagazione, come giro con l'antenna, come te lasci scintilli, va molto bene, vedi, il VHF anche, vedi, bambino, lo stesso, mi ha detto, no, per la vettiva VHF ti diverti, qui allora un'altra cosa, l'abbiamo fatta. e quindi piano piano sono queste cosettine, sento grande spese, mi dico beh, sento grande spese, ma non c'è bisogno di fare il megalomane, hai capito? Sento grande spese. E poi quando te le porto che ti diverti e che quando vigili la portante ti rispondano, capito? Tu prendi una scena, c'è un po' d'antenne allucinante. Tutto filari, fatto da lui, ma arriva in capo al mondo, non c'è bisogno di mettere cose mastodontiche, capito? Ma non va neanche le filari, se le sai fare, le sai piattare, le filari hanno sempre dato matta anche ad antenne di alto livello, capito? Ciao, per le U invece come ci sei stato? Per le U niente, per le U mi mandano a terra, non ho messo niente. Avevo la possibilità che Andrea, il presidente della sezione A, aveva cambiato le antenne, c'aveva due tonnare, 17 elementi, ma grandissime, solo e me lo voleva regalare. Ma ha detto, papà, te le via, te le piatte, te le tane, no, me ne affutti nulla, io antenne, no, me voglio mettere. Hai capito, non le voglio mettere, ma non perché ho paura di metterle, perché qualcuno me ne va a dire qualcosa, io adesso qua definitivamente sono diventato proprietario anche di Sciu, quindi non me ne affutti nulla, posso salire e scendere come mi piace, mettere quello che mi piace dalla mia parte, perché sono due scale divise, però il tetto è praticamente unico, ma le due massate sono divise da tramezzo praticamente. Nella mia parte, io usufruisco della mia parte che è circa 30 metri, 28 metri lunga per altre 25, 30 larga, quindi ho voglia mettere antenne. Ma non mi è mai interessato, capito? Altrimenti avrò avuto le tonnate 17 elementi, VU, ce le ho a Randino, sono favolose, hanno sempre funzionato bene, schicchiano forte. Non ho mai avuto quella passione. Mi è venuta un po' quest'anno perché c'erano dei contest, dei campi interessanti e quindi mi ha trovato, butta, dimenti, ti fai, guarda quanto hai trovato io una camerata, infatti chiamavo, mi rispondevano, alla fine mi sono buttato e ne ho fatto tantissimi di collegamenti, ne ho anche confermati, però non ho quella passione che hanno gli altri, capito? Non mi è mai interessato. Ma di attività ce n'è più sulle V che sulle U, così è qua. Sì, ne ce n'è più nelle V che nelle U sicuramente. Però ti ripeto, io non ho questa grande esperienza. L'esperienza in VHF, in UHF, in banda laterale c'era Walter, Vannino, Marco, non lo so se fa molta attività, Vannino so che fa moltissima attività in VHF, in UHF, in banda laterale, capito? Quindi loro hanno molta esperienza. Io ho iniziato l'anno scorso con questa IAGI 9 elementi, ho visto che funziona bene, che sento molto bene e quindi ci ho provato. Ecco. Anche chi vuole entrare. Noi se sentiamo ti facciamo entrare, se lo sentiamo lo faremo nella reci di buco e nell'elicottero. Buonasera Falcone. Sicuramente te ne andrai in montagna, io purtroppo devo lavorare domani, quindi non credo di festeggiare come festeggi tu. Comunque buonasera, se non ci sentiamo domani ti faccio gli auguri di buon fine anno a te famiglia e niente, soprattutto niente vuol dire che domani per me è un giorno come tutti gli altri, così è con me. Diciamo di sì, meglio che se ne andrà subito di casa. Ma scusa un attimino, per questa parola è Falconero, cos'è, Soso, donna del genere, ma cos'è un radioamatore, perché poco fa ho sentito il nominativo, adesso di essere vero, così, mi confermi Falconero? Roberto ti ha fatto la domanda, dimmi. Bene, Sì, allora non eri tu, perché poco fa ho sentito uno chiamare, ha detto di essere vero, poco prima di parlare tu. È un segnale simile al tuo, perché non stai arrivando tanto forte, questo è Santiago, sì, radio diciamo 3-4, tenendo al 4. Ok, non so se ascolta Claudio, probabilmente ti ascolta molto meglio di me. No, pensavo, allora c'è un'altra persona, perché uno si è presentato col nominativo poco fa. Avanti Claudio. Cioè lui, Lucio Romania di Prete Falconero di Sorso, il mitico Falconero Antonio Giuseppe di Sorso, e lui quando sente a me entra sempre con gli essendero busse, capito? Come facevamo quando eravamo pirati che trovavamo i 45 metri. Oi, oi, oi, ma perché così hai deciso di andare in montagna, Antonio Giuseppe? Antonio, ho capito, nominativo, il nome almeno, nome di coso, nome normale di persona. L'hai sentito, tanti auguri, se non avremo modo di sentirci, ok. Buon tutto e buona giornata per domani. Capito, vabbè, così è che funziona, funziona così. Adesso facciamo queste cosettine, avevo una mezza intenzione di aumentare un po' lo shack, ma visto che è arrivato a 7.004 me rimango così, perché anche parlando a mia moglie ho detto tu stai continuando a spendere soldi in radio e tu non te ne fai niente. Allora la verità è quella, tanto è vero, mi vedi, mi sono visto un po', ho visto un po' in fase di abbandono questa zona e ho spostato subito il 4.40, me lo sono messo, sì arrivo, me lo sono messo qua davanti e lo sto usando in 27, nonostante ce l'avevo in 20 metri e lì li ho tutti. Uso un HF, una radio per ogni banda, stavo cominciando insomma un po' a risentirne perché qua non ci stavo entrando e allora ho rimesso tutto come la roba, no, non ci riesco a allontanarmi da qua, è più forte di me, no? Riesco a far bene, a farmi le chiacchiere, a rilassarmi, se è possibile, se non è possibile, allora si fa altro. Vabbè, come hai sentito mi hanno chiamato per cena, se coincide Gianni lo stesso mi ha detto che rientrava, vediamo un po' di tenere attivo sto canale 10 come facevamo prima, se ci siete qua è tutto acceso, perdono, tutto acceso, c'è questa accesa e l'HF. Le altre sono tutte spente. Se ci siamo, poi ci facciamo due chiacchiere dopo cena. Buona cena anche a te, se non l'hai fatta, saluti a casa. Ok, sentiamo dopo. Se ci sono, dai, non lo so perché ci sono. Andiamo un po' nello studio, dai, stavo facendo un'altra cosa. Adesso vado anche io a mangiarmi qualcosa, tengo acceso qualche minutino. Comunque, buon tutto, già è classe. Non ci sentiamo, tanti auguri anche a te, in famiglia, a tutti gli amici e a tutti i tuoi cari. Ok, alla prossima età. Ciao, vabbè, no, ci vediamo, non ti preoccupare, ci sentiamo, vai tranquillo, dai, a più tardi, ciao ciao. Navigare tuo nome, Gianni sì. Via. Navigare tuo nome, sentiamo dopo, mi diceva Roberto Quadrato e Antonio Di Sorso, Antonio Giuseppe. Vado a mangiare già e poi sentiamo che non ho ancora cenato. Paga, poi va bene, no, io già cenato, ho mangiato due cosette e sono diventato entrare. Vabbè, dai, buona carica qua, se c'è qualcuno avanti. Qui, è entrato ancora, allora ti lascio compagnia Antonio, devo lasciare, ciao. ciao Luca, ciao Antonello, tutti e due, dai, invece di tutti e due. Luca, stai facendo bassissimo. È radio? Tappa. Proprio piccolo piccolo, avanti Antonio. Ciao Gian, ciao Lu. Ciao Cla, buonasera. No, io volevo sentire perché do un'informazione. Siccome in USB normale, senza cambiare la banda, chiami sulla frequenza USB, c'è della propagazione, volevo provare. Col BV131, non so se tu lo sai già, questo ancora non l'avevo sperimentato, non so come manovrare. Nel BV131 devi tenere, schiacciare tenuto il pulsante SSB, cioè andando direttamente in banda. Ecco, però dietro il lineare c'è un interruttore che fa da 4 a 10 ampere, anche quello va posizionato in 10 ampere quando vado in banda, devo lasciarlo in 4 watt. Antone, dico la verità, non ti so rispondere perché non l'ho mai avuto quell'apparecchio lì. Ti potrebbe rispondere Claudio che sta mangiando, perché lui l'ha avuto quell'apparato lì e sicuramente lo conosce meglio di me perché io non l'ho mai avuto, anche se lo volevo prendere, poi vabbè, nata come è andata, mi sono preso quell'altro. Perché non volevo sbagliare, io proprio faccio, ho provato, ma non so se ho fatto questa operazione giusta. Bisogna vedere se devo schiacciare anche l'altro pulsante e basta, e se la valvola va tarata, ma non credo. Non so se va tarata in, per esempio adesso qua in AM, va tarata, non so se bisogna tarare anche lì, regolare. Perché il segnale, diciamo, lo sai benissimo, non è regolare, quando parli la lancetta si muove su e giù. Tu mi si va a quello, ho visto un po' di propagazione, ho provato, mi pare che era in Germania e mi hanno risposto immediatamente. Però volevo vedere, volevo sapere se è più sicuro, se no, perché ho fatto erano giuste, tutto lì, dai, aspettiamo. Stasera ne ho collegati un Polonia, Germania, Ucraina, che ne abbiamo collegato un mese stasera. AM? K. Stavo facendo un giro così col Galaxy, sono andato in USB ed era abbastanza pieno, 10 minuti fa. Adesso non lo so adesso com'è. Vediamo un po', se c'è qualcuno che lo sa così me lo spiego, vedere se il procedimento, sì, il procedimento che ho fatto è giusto. Infatti Gianlu sei regolato, sei riuscito a regolare, anche io ti sentivo Santiago 9 ma la radio era quasi inesistente. Non so quella forza di successo. No, non è adesso. No, non è niente. Lo staccalo. No, niente, Gianlu. Allora controlla se sei in macchina, controlla l'amplificazione microfonica. Sempre basso, sì, Gesù. Strano, eh? Ma col bagno stai uscendo. Cosa c'hai? Non lo so che apparato stai usando. Mike Ghi, cosa c'hai? Presami quella cosa là, sono andato in negozio a vendere l'altro giorno alle 8 e me l'ho preso. Gesù, cosa stai usando? Il 140? Sì, con l'MC60? Sì, però non va, non va, ascolta il tuo audio. Lascia la portante, pigia, metti il lock, sotto. Muovi il pattino che c'è sotto, vu, muovilo. Ma lo stai muovendo il pattino? Sono tornato in casa che sta giunto in difficoltà. Lo stai muovendo il pattino, fai andare avanti e indietro, il pattino che c'è sotto del in-out, muovilo. Era. Ciao. contattino mezzo sporco, no? Allora, contattino c'ha un commutatorino praticamente, no? Che va, ha visto come fa lo scatto? In quello scatto si deposita delle cosettine e non le dà il consenso di inserirci il preamplificatore microfonico, capito? Quindi ogni tanto muovilo. Doppio room, due ne ho sistemato già di MC60. Ehi, ascolta Antonello adesso. Posso rompere le palle, Claudio, secondi? Sì, però sono qua, io che stavo mangiando, la matta veniva via. No, senta Gianluca, in difficoltà la gente, mi dite nel MC60, stesso problema che ho sentito l'altro giorno. Dimmi Antonello. In poche parole, siccome c'è propagazione in USB, senza toccare la BCD, non ce l'è presente come il Galaxy. Io solamente il USB già si può modulare. Poi attacco il BV131 e pigio l'interruttore SSB in giù. Dietro, se ti ricordi, il BV131 c'è il pulsante per la regolazione dei watt in entrata, da 4 a 10 watt. Ecco, in banda laterale USB quel pulsante va azionato. E poi bisogna regolare anche il tunnel per metterla in frequenza la valvola, oppure no? Te la taglio direttamente in AM e poi va bene in USB. Io trovo che tutti i preamplificatori si possono apparare, ad esempio quello che è, si tarano in CV doppio e poi passi automaticamente in SSB, non le fa niente. Tutti fai però l'ingresso ti fa la taratura in AM normale. Quindi col tunnel e con l'ORAD ti accordi la nodica della valvola. Dopodiché quando vai in SSB prova a fischiare, guarda dove ti arriva lo strumento. Secondo dove ti arriva lo strumento, il picco massimo modulazione, se non hai il fondo scala va benissimo. Se hai il fondo scala allora li commuti il tatto che c'è dietro, il commutatore, da 5 a 10 watt e basta, non devi toccare altro. Ecco, in poche parole, mentre modulo, se l'indicatore fa fondo scala devo commutare dietro, se no fondo scala ci ho provato, non ci va, dunque lo lascio così com'è, a 4 watt, in poche parole, come sto uscendo adesso, no? È pilotato con 4 watt, non di più, dunque lo lascio anche in 4 watt in USB. Perfetto, quello serve se hai più watt in banda laterale, quindi per non mandare lo strumento a fondo scala glielo metti, glielo commuti da dietro, quindi lui se lo regola automaticamente, altrimenti lascialo così, non c'è nessun problema. Ok, ci sentiamo dopo, vado a continuare a mangiare, già tu continua a pulire bene quel tattino. Scusa Claudio, tu devi tenere presente che il Galaxy USB non va in 4 watt, automaticamente va in 25 o 22 watt e dietro è regolata a 4. Sì, ma 25 è l'importante, modulati i watt sono, attenzione, perché se sono 25 è l'importante devi allora dare la scala dei 10 dietro, se sono 25 modulati allora non c'è bisogno, perché il picco di modulazione non danneggia né la valvola né il transistor. No, no, sono modulati, non sono a portante fissa. Quando schiaccio la portante, finché non parlo, l'indicatore non si muove. No, appunto così, grazie. Sono picco e picco, altrimenti non ti preoccupare che non succede niente. Vai tranquillo, modulaci tranquillo. Se sono 25 di portante, allora il problema c'è, perché la valvola è una valvola che quella viene citata con massimo 10 watt, poi se il picco di modulazione è alto non succede assolutamente niente. Vai tranquillo che puoi modulare tranquillamente. Continuate, doppio root, attentano subito. Segui a Gianluca, dille a Gianluca cosa deve fare. Luca, ciao, grazie, ciao. No, ho già fatto, mi. Domani lo pulisco con un po' di prodotto e metto appena di quello sbloccato dei circuiti. Kamasha, il MC60 stai usando, Gianluca? Sì, adesso questo qua. Hai anche il processore attaccato? Sì, è me. Kamasha, va bene. Ma l'avevi messo tutto a posto, quello lì? Non lo conosci più. Vabbè, tu non l'avevi visto come era prima, l'avevo visto solo Claudio. Sto qui l'avevo fatto proprio tutto quanto al nuoto. Completamente, proprio... è un'altra radio confronto a quello che era prima, va. È bella quella radio lì, almeno puoi fare ascolto, se vuoi andare in altre bande puoi fare ascolto, tutto, non ci bisogna manco il ricevitore. Infatti, è che tu credi di Gennaro Tonello? Gianluca, quella che ti ho chiesto dove poter andare a produttore. La 8 ho preso. Ehi, rispondo Antonello, Rai Move metti, c'è Giraldi con Bombolo. Ah, perfetto, va bene. Ogni tanto ce ne danno. Peccato che non hanno notte sul tardi. E già è bello, sempre a quest'ora così, dopo cena, va bene, avanti già. Ia, non so se mi ha capito Gianluca. Ma ho capito, detto che Antonio sei andato. Legga. Praticamente mi ha detto che era in campagna a dare da mangiare il cane l'altro giorno, per quello che non c'era. Poi c'è calato due buci, ha ridicolo, non vira ancora. Vabbè, adesso poi ci hanno invitato in campagna e mi sa che se non sono a casa mia non posso fare nulla. Vabbè, comunque, vabbè, viraggio e basta. Sono andato io una sera, lo stesso, ho chiesto a quella della pizzeria che c'è prima, no? Sono già apre, ma a conto due. Sì, quando vai in campagna dare da mangiare il cane ci perde. Io addirittura sono andato agli 8 minuti, c'era già tutto chiuso, lui era detto che sistemava la merce, l'ho bussato alla porta e sono entrato. E niente, ha giubilato tutto da bellina. E quanto te la fate pagare le cose? Le cose per metterle lì, la scatola? 12,50 nei fiocchi. Ehi, da 50? Già va bene. E cosa hai preso di modello? Bruni. Via, ma che modello? Adesso non me lo dire perché non me lo ricordo. Comunque è bella, è tutta nera, eccetera, eccetera. Calibro. D'accordo. Quanto mi dispiace nel rento? 16. E allora quella grande, vai. Quella che già la forte in lupo. E quanto sono fatto a pagare? 100 con una scatola di quelle così. Poi, ti sto trattando uno bene, benissimo. Bella più la scatola, mi ha regalato la scatola dei proiettili. Ti ha trattato benissimo. L'ho vista su internet, viene di più. E te l'ho detto, ti ha trattato benissimo. Sì, ha fatto un buon prezzo, perché a conti fatti se tu ti scali 12,50 euro delle cartucce, dei proiettili, mi veniva molto meno, dai, molto meno di 100 euro, 88 euro, dai. La voglia, non la paghi anche 120, 130, mi secondo dove. No, tutto va bene, adesso la prossima settimana di gennaio vado a vedere un apparatino, dai, quello che si arriva a me, su. Andare, io stavo controllando mi sta su eBay, vabbè che cosa c'è, c'era un 757 all'asta, G2, quello già vanno bene. Ma per quello che ho trovato mi va bene, speriamo che sia, da, esteticamente come piace a me, senza graffi, senza niente, bello limpido. Additato sì, ma senza graffi. Va bene come ricevitore di lusso. Adesso vediamo un po' il prezzo già è ultimo, va più che bene. Speriamo che, da, sia in buone condizioni estetiche per ricevere sia perfetto. Io sono super contento, guarda. Non so ora. Ma un ricevitore se per capito, mi siete sovramodulati. Ho detto un ricevitore sta comprando. Diciamo che un ricevitore, sì, un ricevitore. Diciamo, dai, una via di mezzo. Trasmette e riceve, così. Trasmette no. A ricevere sì. Capo. Vabbè. Sono scelta, insomma, perché io secondo me avrei preferito avere un radio ricevitore, trasmettitore e ricevitore. Tanto riceve lo stesso e poi lo puoi usare anche il 27 volendo, anche se lo si può usare, è la verità. Ma almeno ce l'hai, se decidi di prenderti la patente o cosa del genere, c'hai un apparato come si deve. Ecco. Avanza, buonasera. Ciao a tutti, Fabrizio da questa parte. E Fabrizio, buonasera, ben sentito, dai. Cappa, tu apparecchi da vendere non ne hai, no? Due, me ne dovevo entrare un altro 440, invece ne tengo uno, l'ho già fatto fuori da poco. Ascolta, guardate, cercare, c'era un bel ricevitore in vendita su eBay. Ciao Fabrizio, guarda un attimino già, la rotta per il saluto dopo lo vedo questo, se no andava a fare uno malavocato che non saluta nessuno. Hai ragione, scusate, ciao a tutti, ho salutato però, No, non hai capito, scusami Gianlu, dovevo ripassarti il microfono, c'hai ragione. Anch'io sto guardando qua, sto guardando anch'io comunque, dai. Avanti un attimo per rifare Antonio, per i saluti a Fabrizio. Ciao Fabri, buonasera, ben sentito, giustamente auguroni di buon Natale. Auguri anche a te Antonio. No, ce n'era uno in vendita, c'era il cos'era? Lo Yaesi, il VR5000. Quello che c'è io, che ne stavo dicendo io l'altra volta a Antonello, così almeno c'è un ricevitore completo. Quello può andare bene, mi pare. Non mi ricordo la copre, fino al 2006 arriva. Arriva da 0 a 2 giga RSI, arriva con tutti i nuovi modi di ricezione, CW, CWN, AM FM, larga e stretta, USB, USB, tutto quanto c'ha. Anche questo che mi hai detto, sinceramente il modello non me lo ricordo, il codice, se non sbaglio mi hai detto che erano gli AESU, però il modello no, non me lo ricordo per niente. E metto che anche questo qua faceva tutte le bande, come quelle che hai tutto, tutte quante, comprese gli HF. Quel modello, ti giuro, non me lo ricordo. Questo è carino, detto, boh, non so poi di come sensibilità bisognerebbe provarla, però questo va bene, c'è tutto. Ci vorrà un 400-500 euro, però un ricevitore completo. Se vuoi il cable RZ1. RZ1, io ce l'ho avuto da ragazzino, vabbè, volevo, fammi vedere un attimino, fammi ricordare, 21 anni avevo, perché ce l'avevo nella Super 5, ho pagato 1 milione all'epoca quell'apparecchio, 900.000 lire. Anzi, già costava, no, questo è, guarda, quello che c'è è perfetto, vedi anche un graffio, è perfettissimo, in ogni dettaglio, funziona, una meraviglia, tutto luminoso, non c'è nessuna lampadina fulminata, è perfetto, ti giuro, manco un graffio. Che bande fa? Questa fa AM, FM, AM larga, FM larga, UEV, però non ha le UEV con le bande, capito? Gli mancano le bande laterali, capito? Però infatti il ricevitore così più che altro per le bande alte. Quella cifra ce l'ha questa in vendita, ho visto. Questo poteva andare, comunque ogni tanto si trova qualche ricevitore. Se non sbaglio questo arriva a 99.999, una cosa del genere, ne ha un bel po', ne hai da girare. Com'è la sintonia continua? Viglielo tu che non so. Sì, non me lo ricordo, ce l'ho avuto, lo usavo un amico come apparecchio e l'avevo preso perché aveva un metro di me, quindi andava bene per la macchina. Ma ascolti, mi ti riprendo dopo perché mi avvicino un attimino dal bambino. Buon proseguimento comunque, là. Che Fabri, là. Buon cuore, ci ascolto, dai. Avanti Fabrizio. Blu. scusa. Ciao Fabrizio, vai. Buona carica se stai per la cena, pronto per la cena. Avanti Antonello. Come? Ciao Fabri, sentiamo più tardi se coincide. Ciao, a dopo. Già, quando passi sotto casa mia, per caso ho osservato, solleva lo sguardo, aspetta che abbasso qua che è un po' troppo, solleva lo sguardo e guardo un pochettino sul tetto. Ho messo la direttiva. Sì, ma la direttiva. E quanto deve essere? È una cubica. Tipo quella che c'ha Marco, scusa. Marco, sì, Marco tipo quella. Praticamente la stessa antenna della mia più o meno, quella. Però non lo so, ma sembra che non l'aveva mai montata lui. Ce li ha, vabbè. Ce li ha abbassate adesso queste antenne, non lo so, stavo proprio guardando stamattina, sono passato lì. Ce li ha abbassate da quando ha fatto quel vento, ma non l'ultimo, no, il penultimo vento che aveva fatto, l'aveva abbassate perché mi ha fatto un bel di danno e cose. E allora l'aveva abbassata e poi non le ha più rialzate. Non so se sta ancora operando con le antenne basse oppure se sta facendo la Vuribu. Quella tua sorella attaccata. Ma perché l'aveva montata Marco? L'aveva montata e l'hanno entrata, l'aveva fatta, ha dovuto chiamare i vigili del fuoco per smontarla. Figurati di un casino. Ecco, vi sto ascoltando, ci sentiamo dopo. Ciao Fabrizio, buonasera, avanti già. Cappagazza. Vabbè. Cosa che succedono? Con queste antenne così grandi c'è sempre il rischio. Già con quelle piccole, se la salì bene giunta a me, quello del palazzo con il radiale in mano, non è uscito un radiale Fabrizio. Ma quello è un problema di quelle antenne, perché la appoggiano i piccioni. Bisogna legarlo tipo la lenza, no? Di metterci la lenza, legarli tutti e poi fare tipo una ghiera lì e legare tutto. E il problema della mantova è quello, che si mettono i piccioni, tric, tric, tric. Ah, ma ne aspettate uno solo. E poi il bello sì, è che secondo me è rimasto il petto dentro, non so come abbia fatto a spezzarlo. Perché c'era un bel pezzo che entrava in incastro, già te lo ricordi che erano un bel duri quando li abbiamo infilati, qui in più c'era il bullone passante, non si è spezzato in punta sicuramente, si è spezzato all'interno, perché risulta un pezzo del foro che si vede e l'altra parte del foro è rimasta dentro. Gli uccelli, invece mi dicevo ogni tanto li vedo anch'io sopra la mia, ma quelli si rimangono lì, maledetti. Adesso la mia paura è questa, spero che non gli faccia niente. No, questa, lo dico quella di Marco, la verità, ho visto il tetto di Marco tempo fa, non sapevo nemmeno che era lui prima di prendere la patente, e niente. No, io sto terminando, questo ero in Italia, sono riuscito adesso dal tetto e la stavo tirando su e rimettendo i tiranti, perché ho messo tutti i tiranti di questo bike con questo micidiale, cacchio, proprio bello questo materiale, con tutti, e lo stavo terminando. E poi c'ha quella per i 40 metri, la monobanda per i 40 metri, ed è enorme, cacchio. Infatti adesso che l'ho montata me ne sono reso conto, se no avrei preso una 3 elementi, una anche 4 elementi multibanda, così è enorme. Vabbè, l'interessante è che abbia lo spazio per girare, poi esatto, in affondi tanto in alto e non l'ho visto. Beh, non la vedi, quando passi sotto casa te lo sguardo, fra un po' arriveranno qualche controllo sicuramente, perché la gente sta iniziando a guardare, ad affacciarsi. Sempre solo che rompi palle, i viaghini. Vabbè, lasciamoli fare, chi ce ne frega. Ma boh, riprendi Antone e fai girare che mi allontano, va. No, sto facendo giù di canale, c'è un po' di propaganda in USB, però roba dalla Germania, tra un po' provo a vedere se riescono a sentirmi, almeno qua in questo modo ci possiamo divertire, così è già, almeno questo noi, il nostro piccolo. Vabbè, no, ma io mi diverto più qua che là, si divertire di più qua. Io sono stato sempre abituato a stare in questa frequenza, non disdegno di andare da nessun'altra parte, no? Ci vado per ascoltare cose, però mi piace stare qua a modulare, a scherzare anche con gli amici, e cosa mi piace di più. Quello è vero, no, ma almeno dai, l'unico modo per noi è la propagazione, che ieri 5 minutini si è aperta, questo in Alta Italia, stavo parlando io e Gianni e Capri 2, ma è durato, guarda, 5 minuti contatti, è peccato. Si era aperto uno spiraglio e poi sfortunatamente si è chiuso. E devi trovare il giorno giusto e il momento giusto, ecco, se vuoi approfittare della propagazione. E ieri in camera non è fatto là. Ieri camera me ha fatto là. No, non mi sembra una cosa giusta, dai. Anche mi sedi lì. Ho il telefonino. Sai che non è che prenda molto bene, quando è buio questo è il primo che c'ho, non serve due citi per filmare. No, io c'ho la modalità notturna, mentre la modalità notturna è, si vede bene. E quello si dipende sempre dal telefono, dipende sempre dalla qualità della telecamera che monta il telefono. Avanti, Gianlu. Ma cos'è, un tablet? No, Cla, stavo parlando per fare compagnia a loro. No, ancora non ho provato. Ma io che andiamo tutti là, dove devi andare? Io non lo so, bisogna vedere. Io poco fa ero sul canale 23, bisogna vedere se ce n'è ancora propagazione. Vediamo un po'. Ho girato direttamente USB, sempre in 27 e via. Tu fate un giro, poi ci passate sul canale 10 in USB, capito? Ho fatto Gaia, hai fatto un giro. Cappa avanti, già. Via. Scorra. Bascia di muovi. Muovi, Gianlu, mentre stai parlando, muovi. Parla e muovi. Uno, due, tre, prova. Ma vuole posizionato in out? In, non out, out è chiuso, in, davanti lo devi mandare. E io questo posto l'ho sempre posizionato in out. Ecco qua. Ok, ma io sto guardando la lancetta che si muove, quindi vuol dire che già è a posto. Va bene. Sta per contatti, già. Sì, ma domani io lo pulisco bene domani, dai. Fabio, come mi ascolti Santiago? Siamo a 25 con 4,40, sì. Io già va bene, no? Ma arrivi anche molto più forte. Lo so, ma ho messo tutto da parte adesso. Infatti stavo dicendo, mi è riuscito con radiare dell'antenna, stavo pensando che magari ci si più male e cose, ma invece mi pare che andava in Roma a testa. Guarda che dentro la mappa turbo, l'ho tenuta a tre radiali per più di un anno, io poi l'ho buttata a terra e ho messo quella nuova. Non fa niente. Ma adesso io dovendoli, siccome si è rotto brutto, visto? Allora noi con Fabrizio avevamo fatto la modifica, perché c'era quello che avvitava, abbiamo fatto la modifica e abbiamo messo quello in alluminio, l'abbiamo incastrato a forza perché entrava proprio giusto sino in fondo, e poi abbiamo fatto il buco e abbiamo messo un bullone passante da una parte all'altra col dadino eccetera. Si è tagliato proprio qua dove c'era il buco, perché si è sicuramente indebolito facendo il buco, magari si è fatto più fino e quindi si è indebolito sicuramente, e niente, si è tagliato proprio a metà il buco. Se io lo metto così com'è e rifaccio un altro buco, ne fa qualcosa? Io quel sistema non l'ho adottato, ho già, te lo metto, io ho comprato l'alluminio leggermente, ma proprio che entrava in casso, riportandolo col pezzo che era rimasto, e poi l'ho fatto, era un bel pezzo, non ho adottato il sistema. avete portato voi, rifilettato, rifatto. No, solamente il coso, non c'è la possibilità di cambiare il foro, no? Non hai capito, e non abbiamo filettato noi, l'abbiamo messo all'incastro e poi messo il bullone passante, l'abbiamo fatto il buco e abbiamo messo un bullone passante, tutto lì. Ma non c'è bisogno, basta che tu limi quella parte che si è spezzata, la limi e la fai alla pari, poi rincastrare, li fai di nuovo, li fai il segno con un ferrare, qualche cosa, li fai di nuovo il buco, lo porti giù, li fai il buco e hai fatto il gioco, però risulta più corto. Ma di nulla, se ne è un po' più corto, magari siamo pieno di massa, non fa niente, già. Perché c'era una misura, se pensavo che voleva rispettata quella misura lì. Sì, rispettata anche, va bene, ma se 5 centimetri, 10 centimetri più corto, non fa assolutamente niente. Fa pagare. La bella. E adesso quando fa un po' di bel tempo salire e rimetterlo là, il faccio. Che nuova nuova l'antenna, mi dispiace che è stata tutta rifatta bene, che è tutta di uso, ho cambiato i pezzi, tutto tanto. E vabbè, ma puoi rimettere lo stesso radiale, lo stesso sistema. E non la fa assolutamente niente, cosa le fa? Risuona lo stesso. Allora, riprendi. Stavo controllando quel quadro di internet, mi collego, dopo prende e se ne va la connessione, salva diavolo qua. Ma io sto dicendo bene adesso, ma se non mi perché è chiuso il microfono? È sempre in auto era quel microfono qua. Vuoi tenerlo in vuol dire aperto, auto è chiuso, in, sto dicendo molto bene adesso. Bene, no, ma io me ne stavo accorgendo anche dallo smith, dalla lancetta, no? Che modulazione si sollevava proprio poco a poco, e ho detto, ho detto, ho fatto la domanda, ma il processore è attaccato, perché non mi sembrava che stesse pompando. Beh, se tiene il microfono in alto è chiuso, mi si sente di andare in, ecco perché non ti stava più amplificando, capito? E mi chiedi come ci va al massimo, Gianlu? Sì, mi chiedi al massimo. E come dice, quando l'avevi portato qua, l'avevo mambetto, vedo lo trimmerino interno. Lei ha quella ragione. Era questo che avevamo? Sì, quell'arancione. Ecco l'arancione, sì, sì, sì. Cioè, va bene, stai fingendo adesso. Sei 9,5 con picchia 9,10, si vede che sta modulando bene. Prima di sorrado. Avanti, Antonio era a caccia di collegamenti, noi ce l'abbiamo fatti stasera parlando, abbiamo avuto due chicchiardi già, no? Polonia, Romania, l'altra cosa era? La Croazia. C'era Polonia, Croazia e Germania, tutte e tre, e si sentiva abbastanza bene a mia casa, cazzo col tedesco era un momento che fa 9. Maledizione quando pompano quelli già vanno, non c'è problema. È con tutto che posso usare pochi fatti in AM, mi pare un watt e mezzo, roba leggera. Già, ma c'è sempre qualcuno che lì già ne mette di watti, già ne mette watti. È sempre quello che è il caso della situazione. Ah no. Allora, ok, Jerry, attacchiamo gli abili e luci, anche se qua è proibito, però ogni tanto ti devi aiutare, vabbè, pazienza, come già mi fa. Quanto che ci sentiamo, poi, per il resto, chi se ne frega, Antonello, la caccia di Exxon. C'è un filmone al primo, infatti mi ha acceso la TV. Non sto guardando, l'ho seguito questo, l'isola, un film della Marina Militare, molto bello. Io ti assicuro che sta bada a film, non ci prendo più gusto, non lo so, non ce la faccio più a seguirli, mi stanco, mi piacciono più i documentari, vedi, Max, posso stare guardandomi tutto il giorno e non mi stufa, perché ci sono diverse cose che mi piacciono, che mi entusiasmano, che mi informano e cose, quindi me lo guardo volentieri. Infatti mia moglie dice che sono fissata, ma mi piace, cosa devo fare? Poi quando ha sentito gli amici miei, che cosa guardo? E io guardo Di Max, l'altro Di Max anche io Di Max, allora dici, non è solo lui, dove si la baita, vuol dire che è interessante. Oggettivo. Ma questo è un film della marina militare, un po' di spionaggio, diciamo, un po' di cose così. Questa voce non c'è lui, non me la metto, boh. Della radio? Ah, di quella radio, non mi ricordo se, boh, se abbiamo i picchi di occhi tutti positivi, no? Sì. Adesso aspetta, ora sto guardando l'antenometro dell'alimentatore, che va a picchi negativi, però ma cosa? Gli ampere? Sì, gli ampere vanno un pochettino in giù, ma non frega niente, quella protezione che non ha il picco massimo, però qua i picchi sono positivi, 9,5, 9 più 10, quindi non ci sono problemi. Ma intendo che c'è il diavolo di tipo cibo duplo, ma solo qua li prendo io, anche da voi ci sono. Già ci sono. Banda bassa, già c'è. Sicuramente sono i carabinieri che stanno trasmettendo cibo duplo. Tipo, vedi tre, così. Mi. Sì, che buona cosa così. Mi sono cibo doppio, già lo parlo anche l'escrivente. Già lo fa. Paga. Io non capisco che cosa, che gusto ci prendano a trasmettere il cibo doppio. Io non ci prendere il gusto. Forse non riesco a capirlo perché non lo provo. Già, fammi conoscere. Una cosa bella, io l'avevo fatta prima dell'esame, poi invece mi avevano esonerato con la buona maritore, ci eravamo messi, ma non è una cosa bella, solo la rottura di palle, non mi piace. Tu lo sai dove sei finito? Sì, nella nuova, è praticamente... Pare che sia uno o due caseggiati dietro mi succede, dove quando entri al cimitero, anziché andare a destra e a sinistra, c'è la nuova. No, non ho visto gli attori, lo sai dov'è? Praticamente è negli oculi che ci sono, passano dalla parte dove c'è la serra di Coso, come si chiama, di Garedi, Flor Garde, la parte di dietro lì, no? Entri da quella parte lì, vai verso sinistra, scendi giù e in una fila di oculi, è affacciato nel circolo lui, nella fotografia. Sì, perché sono due entrate, praticamente io entro dove c'è il fornitore, no? Entro lì, poi quando arrivo al cancello principale giro a sinistra, però mi porta dove stai dicendo tu, praticamente dietro quella zona lì. Sì, già lì. Già lì l'ho visto da poco. Allora, con la fotografia, la tua immagine che gliela ha fatta, lo zio di Franco Volta 1, Piero, che abitava vicino a te. Però sembra che sia al circolo, credo, l'ha frequentava lui. Sì, l'ha fatta lui, mi ricordo, perché... Ma allora fa anche fatto valore, poverino, fatto il combattimento, c'è il fotogenico, no? Vabbè, te la vi. Guarda, io l'ho trovato per caso perché stavo guardando, così sai come fanno, per vedere, a volte ti viene guardando le cose, non è possibile, ti trovi gente che conosce cose. Stavo guardando, scendendo dalla Nonna di Liliana, perché la Nonna di Liliana è alla fine di quella fila di oculi, no? Lì nell'angolo, proprio nell'angolo c'è lì. Fatto sta che stavo andando a mettere i fiori, che un attimo stavo guardando e ho visto attore. Si fermano due, che non mi stanno mai guardando. Ah, non mi lo dica il mozzuttore, no? Ecco, io non so più nulla. Non è molto, un gamante di maglia si è ammazzato in faccia. E mi hanno detto, ma lo conosceva lì? Ho detto sì, abita vicino a casa, però lo conosco a tanto tempo. Avevamo amici. E ho detto, e di cosa è molto? Gliel'ho detto. Ah, che non l'ha già saputo niente, tanto mi dispiace, capito? Passo maggiore lungo di tempo, non è da poco. Oggi ho visto un altro giornale che quando vengo a Pascoli lo volevo tutti i giorni. E io dicevo qua, già, purtroppo. Così è, che lo so, è 10. Tra un po' arriva mia figlia, trabacco. Certo, cioè non ti vorrei dire una cosa, lo sai che non me la metto più? Non me la metto più? Ma tu non c'ho, non c'ho che con la direttiva, che so che con la 27 c'è lui, ma l'hai smontata? Sì, questa Barzucca, si chiama Barzucca. Non ho giù compreso cosa fa già questa antenna, cioè, ultimamente quando le basta per mettere questa, con quella plastica che ti ho detto, no, quella della 27. Ho trovato tutto a pieno d'acqua all'interno, deve essere, non funziona per quel motivo lì. Pioveva, ma completamente lì. Era pesantissima, quando l'ho levata, ci sono sempre cose così pesanti. Erano sono riuscito a pulire l'intera, no? Mentre stavo smontando gli elementi, mollando le fascette, no? Che c'è le fascette. Poi mi sono stato uscendo l'acqua. L'ho messa in piedi a svuotare e ne è uscita roba di acqua e non vedeva avviso. Un casino, è un casino, l'antenna è sempre un casino. Datemi due minuti che è arrivata mia figlia, riprendi già. Sì, era. Gianluca, anche la mia non l'avevo calendata bene, primo figlio. Era entrata acqua. Era entrata acqua, l'ho messa la testa e si andava al rubinetto scendendo. È una cosa impressionante. Tutta bella pulita, asciugata, non basta mettere una parte quella lì, bisogna controllare i contatti, no, qua. Una volta che si piazza, che è asciugata, che la monti bene, che le metti le meccanizzanti nelle giunture, non dovrebbe più avere problemi. Controllare quella specie di carica che c'è una cosa a fianco nel basamento dove attacchi il PL che sembra una zucca proprio uguale. Sì, sì, è così. Vabbè, sono esposte a tutte le intemperie, vabbè. Infatti io adesso quando l'ho sceso ultimamente per pulirla tutta ho cambiato anche il pezzo dove attacca il PL e rifatto la saldatura di nuovo della massa, tutto quanto. Le ho passato tutta la vasellina e poi ho messo questo grasso al litio che mi ha consigliato Massimiliano e mi sembra che sia una cosa buona. Nelle giunture, dai, da mettere lì dove ci sono i contatti. Poi ho messo questo vulcanizzante, bene, non ho guardato, non sono fatto lì a sprechi, a cose asciutti, non ho tutto fatto bene, diciamo, cioè. Quest'ultima che ho piazzato, questa che sta facendo autoradiali, che c'ha l'avvolgimento che si vede dentro questa specie di campana di vetro. Ma proprio fatta adesso, antenna robusta, proprio si vede che non è fatta in economia, è fatta bene con criterio. Buona veramente l'antenna, Per la 27? Sì, per la 27, va da 25 a 29, 26 o 29, se non mi ricordo bene. Questa che ti ho detto tu, che ti hai detto tu il nome, non mi ricordo mai, sempre di razzidio. Paga. Questa che stai usando adesso, Adesso sto usando quella che mi ha dato Sandro, si chiama lo stesso Sirio, però non mi ricordo la sigla. E questa qui è quella che c'è praticamente, che sotto c'è l'antenna della TV, questa qua, e l'altra è posizionata più avanti insieme all'altra, dove c'è praticamente anche quella del discone. Oh, già dovrebbe uscire bene con l'antenna, e quanto è alta già? Uguale, come la manta, ma come questa che sto usando adesso, molto radiali però. Sono sì elementi, l'unica cosa che hanno di differenza che questa che sto usando adesso e anche quella lì, hanno il criterio di controllare e di regolare fattorale sul vertice della, sulla sommità dell'antenna. L'ultimo stiglio è quello scorrevole, dentro l'altro c'è una brugola che deve regolare. Quindi se mi riuscite a controllare, se non andare che vuole avere la soddisfazione di averla, di tararla 1-1, c'ha tutte le misure, io ho rispettato tutte le misure dei segni, dove vanno stretti tutti le cannette, ce la poco a sbagliare perché c'ha le due viti, entrava una per scoppita dentro l'altra, quando arrivava al punto che ce la combaciava le buchi, le mettevi le viti per frenarla, no, per fermarla. Invece su c'è lo scorrevole in acciaio, con il segno, tu devi mettere lì e friggere le stazionarie. Ma se ogni volta che tu ricordare stazionarie devi stare abbassando l'antenna. E allora, non la devo utilizzare l'antenna, la rubaro? Ma di mezzo a fa una cosa lì dove tutta la manta, perché c'è quella molla, che però è molto fragile quella cosa, già durano le mante, vabbè, se non prendono delle smattolate forti di vento, però la comodità è tutta un'altra cosa, quella lì di regolare le stazionarie. Abbassi leggermente il palo, io ho il palo lo stesso telescopico uno dentro l'altro, con i dati che entrano e frenano, io non faccio nient'altro che andare con la chiave lì da seduto, mi abbasso il palo e me la scendo, capito? Me la scendo proprio all'altezza che devo fare il lavoro. Spingo un attimino, faccio la cosa, poi la tiro su, come arriva la cosa, spingo laggiù. Non è che butto il palo in terra oppure lo stacco dal muro, no? Beh, così anch'io faccio la stessa cosa. Tirati poi vanno di nuovo in tira, come tu la tiri su, diventano i tirati di nuovo in tira. Bravo, esattamente. Come io la tiro su, che vedo che tirati sono in tira, boom, la fermo e la primo. Tutti con le riduzioni in acciaio, l'ho fatto fare, mi pare zingato. Tutto nuovo l'ho messo, quando l'ho fatto anche l'antenna della TV, ho comprato tutto nuovo, ho fatto tutto nuovo l'ho fatto. Discese, ricorderia, file, tutto quanto, quelle. Ma Paolo, lo sarebbe un tubo d'acqua oppure di quello che usano per le parabole, eccetera, eccetera? Questo non ho capito bene, che cosa? Non si è usato tubo di acqua, di quello idraulico oppure di quello che usano per le parabole? Un po' di quello di acqua, già, zingato. Ma la quanto la misura non è tanto grosso, però dopo la riduzione di sopra mi è fatta fare grossa invece, capito? Non era un problema, perché questa antenna qua sono palo a palo, non è come la manta da che c'è l'inizio di fare il pezzo del tubo se vuoi che vada bene dentro, invece questa qui risulta a fianco. C'ha delle cravatte e attaccava al tubo là. Sì, c'è tutto lo strabbato, è più comoda, così puoi utilizzare diversi tipi di tubo, non troppo fini, e se penso non mi ricordo quanto era la misura, se è mezzo pollice. Questo qua, invece l'altro è da innocenti, tubo innocenti, l'altro dove non fa capellano, l'altro che ho messo da poco, quella mia, l'ho messo quest'estate. Quello su tubo innocenti, però sempre palo a palo, a bianco. Invece questa qua c'ha l'immesso che ho fatto fare il cavalletto d'acciaio, il raccordo, tutto quanto. È una tipo canna da pesca, il tubo di giù rimane più grosso e quello che sale su è più fino, giustamente perché è telescopico. L'unica è incrementare due staffe, metti un tubo grosso, io l'ho messo quello di cose che mettono per cosa ti posso dire, per l'antenna del TV, no? Però di quello più grosso, diciamo per la parabola, là. Poi il tubo era 8 metri e gli ho tirato solo 5 metri, poi l'ultimo tubo che ho messo gli ho messo di quello d'acqua. All'interno? K. E l'antenna infila proprio in quello d'acqua, là. Va bene, ma già sono... Sono fatto bene, dopo io lo stesso lo spazio nuovo, i tubuloni, i tiranti, il triangolino, l'ho messo tutto quanto fatto bene, la sagra, l'altro tanto, i piedi, i maniglioncini l'ho messo, poi beh, c'è anche l'antenna della TV sotto, capito, sotto tutti c'è l'antenna della TV io. Te lo so, te lo so. Quello l'hai messo come tiranti, quelli marinari, quelli arancioni. Ma prima ce l'avevo, ma non mi bastava per farlo tutto. Ho messo un cavo tipo quello da prendere, che sono gommati acciaiosi dentro, no? Dovrebbe essere da 5 da 6 in diametro. Io già vedo che già va bene. Io con la gomma tubi non l'avrei messo, perché si secca quella protezione e poi si arrugginisce tutto all'interno. No, io ho messo quelli proprio da stendere, però quelli in nylon. Quelli lì ce li ho, la belletta ai 12 anni, non se ne è mai rotto uno. Mi tocco però, 12 anni ci sono. Questa qui l'ho presa perché la... L'avevo vista qui come un rotolo, era conveniente, oggi invece a pigliarlo. E dopo la verità, quando ho sostituito tutto, mi sono ricordato che avevo questo cavo che avevo comprato così, magari anche per stendere o chissà che cosa. Allora, posso utilizzare questo qua, là, ce l'ho, lo uso, vediamo un poco come funziona. La verità, per l'ultimo giorno che ho fatto quel periodo che ho fatto col vento, sono staccato uno. Deve essere che come faceva vento o faceva pericolo, da qualche parte si stigando, no? Aspettato che passasse questo cavolo di tempo, l'ho preso e l'ho sostituito, sarà un paio di mesi fa. Vediamo cosa dice questo inverno, se no dopo si ritorna di tutti i sistemi. Io mi sto salvo la vita marinaia, mi sapevo che ho fatto tutto il nylon, si tratta di ballora, si tratta di fare cose di cordini, di tiranti, degli alberi, delle bacche, se non riusci, ci sono bravo di più di 10 anni, bravo io. E dopo, addirittura quando ho buttato l'antenna, che ho cambiato l'antenna, che c'erano quelle antenne strane, io, non so se ti ricordi, io c'avevo quelle due antenne, sempre della lunghezza del tutto della... La dritta di migrazione della terra, la prima volta. Ma che è rimasto avanti? Allora, ci siamo. Oh, già, dai, se ci siete, ci sentiamo dopo, che... C'è mio figlio, guarda, faccio due chiacchiere. Se ci siete ci sentiamo dopo, altrimenti vi auguro buonanotte, buon tutto e ci sentiamo domani, ok? Sì, vai, ciao, bla, buon colletti per il momento qui, al limite, se vuoi rientrare, se ci siamo, penso che chiuda subito perché adesso me ne vado un po' su internet, dopo fumando una sigaretta e poi me ne vado a letto. Sì, già, che tu lavori domani mattina? Ma forse anche di sera perché abbiamo l'inventario, adesso non lo so se mi fanno lavorare. Non dovrei lavorare, ma non si sa mai. No, va bene, dai. Ci aggiorniamo domani allora. Io dopo lascio acceso comunque, non spengo. Se ci siete va bene, se no ci aggiorniamo domani, dai. Buonanotte a tutti per il momento. Ciao già, grazie per le chiacchiere. Ciao anche Gianluca e a tutti. Ciao, ciao, ci sentiamo. Gianluca. Sono qua, Giacomo. C'è un mal di pancia oggi, guarda, da crepare. No, ho contattato qualcuno perché ho abbassato il volume della radio. No, negativo, non ho entrato nessuno. Ho chiamato un'altra parte. No, un telefono, stavo rispondendo. E niente, capito, mi faccio di quella saga dei miei tiranti. Quindi ho giocato di... Quando c'erano quelle due antenne, non so se ti ricordi, erano sempre dell'altezza di una mantova, però al basamento avevano due radiali lunghi lunghi, uno da parte e uno all'altra, perpendicolare, e uno di questi qua, e tutti e due erano, cioè uno più grosso e uno più fine, praticamente l'antenna appunto la faceva dai sui 45-15 metri, capito? E si regolavano questi radiali che entravano uno dentro l'altro e li mettevi a misura della sigma, erano queste due antenne qua, però non erano robuste come la mantova. E l'avevo preso perché uno ci faceva per ascoltare, no? Ascoltavo i 40 metri, i 45 metri, gli radiomatori, e con l'altro basso trasmettevi per la 27, in 11 metri. E vabbè, dice il radiale, lunghi. Ma la ricordo io questa giallura. Ma io le prime volte che ho visto, che ho mandato l'occhio su quel tetto, pensavo che fosse un radiamatore, infatti ho chiesto a Claudio, chi è il radiamatore? E mi ha detto, non è un radiamatore, è un SWL. E tutt'altro, un bel attrezzato. Ma tanto è mio, tu lo devi dire, sono andate bene, già, da bubu. Allora abbiamo mandato la diretta, ma forse si trucca nel radiale, no? Sono sempre accorta, ma dopo ultimamente non c'era più il tanto, perché dopo non c'erano più le misure, no? Per fare funzionare bene la cosa. C'erano sempre un po' di stazionari e non andavano più bene. La giugna della giugna della diretta pezzarizzi. Dove ne avevo di quelle due, le avevo comprate, no? Poi, prima quella c'era la mano, la Firenze mi sembra avuto anche, la Firenze 1 mi sembra c'è avuto, mi dice Gran Pelì, non so quanto ne ho già avuto, mi dice Gran Pelì quelli radiali rivolti verso il basso, no? E niente, adesso con queste qua mi sto trovando veramente bene, sono veramente robuste come antenne queste qua. L'unica cosa, l'unico indica per controllare stazionale, secondo commedia magari, non se la buttava in terra, prova, tira, come se mi chiama durata. Mi tocca provare, poi rimetterla su, spostarsi, cosa stanno provando, non è casino. Molto più semplice è la mantova. Io ho un numero di stazionale, già lui. Quando attacca uno è lui, non è di più. Molto bene la mia. Che senza un radiale rende lo stesso, perché il vento non si sente letto, non ha buttato un radiale in terra. E nel giusto che su abita a mansarda con un radiale in mano, mentre questo qui si vuole, probabilmente caduto dall'antenna, con quel vento che ha fatto, dice no, a me non mi disturbano, gliel'ho portato perché magari le può servire. E si è troncato proprio, siccome ti dico che avevo fatto la modifica che c'è là, quei radiali che erano vetrificati, l'avevo tutti e tutti, avevo fatto la modifica, l'avevo incassato, ho comprato l'alluminio, l'avevo fatto a misura, incassato questi radiali di alluminio anche forte, incassati proprio a forza, e messo praticamente, fatto un bullone passante, l'avevo fissato così, che se mi ha troncato, dove c'è proprio il buco, in due l'ha tagliato, e con tutto che c'era la parte dell'antenna che manteneva, non capisco come ha fatto. Guarda, io c'ho un problema con il sindacolo di Ribiccioli e Burracci, avevo chiaramente burri gabbiani, quindi quando si posano, guarda, sono pesano 300-400 grammi, mi sono umani, bunduregiani, a chi non passa il vento, per quanto forte possa essere, l'antenna era nuova, fosse un danno del genere. Sicuramente erano lesionati anche sui buoni, i fibbizzoni malavesti sopra. E non è tanto che si posano, quando spiccano il fuoco devi vedere lo slancio che si danno, come ti si dà il slancio si biccia. Prego. Va. Anzi bene. Senta, buonasera. Ciao Gianni. Ciao Gianluca. Buonasera Franco da Sos. Avanti Gianni. Ciao Franco, mi hai sentito con le tacche a te, dai. Stavo parlando appunto di piccioni, cornacchie, gabbiani che quando spiccano il volo sul radiale delle antenne. Sì, vi ho sentito. Sono almeno 10 minuti che faccio ascolto. Sì, è vero. Quelle rompono, se si posano sui radiali, sono pesanti quando spiccano il volo. So, sei purtroppo, quelle lì a volte si posano dove non si devono posare. Avanti Gianno. Ok, dai, vediamo. Sì, adesso sì. Gianluca, ieri mattina. Ma arrivai a Mazzano, ero andato da Rimani. Ieri mattina, sei tu in quella macchina che è passato lì al bar di fronte al coso. Insomma, non mi ricordo come si chiama quel bar. Vicino alla rotonda, dai. Vicino ai granai. Sicuramente io lo prendo all'orario, c'era un bagaglio, ma è, non è, penso che sono brutti colori. Come vi chiamo in divisa? Sì, ho visto in divisa, però non ci ho fatto caso. Stavo parlando con i miei colleghi, da. Vabbè, quando me ne sono andato, ha detto, ma, cattivo, ma della stessa franco, però ha detto, no, vabbè, ha detto, ha preso con un po' che ci vediamo noi. Così ho detto, appena ho parlato con il mio Piero. Capa, guarda, io addirittura quando tu sei andato, adesso non mi ricordo che tipo di macchina è perché è una macchina che non vedo spesso, e ho visto l'antenna, ce l'hai posizionata dietro, mi sembra, e ti ho anche guardato, giù, guardato, ma non pare, non mi pare. Sì, ho già visto che tu hai la parte dell'antenna, che avrà notato l'antenna dietro me, e allora ho detto, ma non si sa mai, non si ha branco, guarda, che è stato un segno di vento, magari una somiglianza con l'altro, che molte volte qualcuno c'è che ci assomiglia un po' con l'altro, ecco, tutto lì. E la fa, e la già di Guggia, e vado io, avevo visto ballina, sono portata in tempo, e la vedi. E cappa, dai, e siamo da parecchio che non ci vediamo, dai. Io addirittura mi sono un po' ingrassato, come ci conoscevamo noi, siamo conosciuti noi, ero magro romano. Comunque, dai, già ero io, ieri mattina, verso le 6, 5 e mezza, 6 era. Di bello, no, 5 e mezza, 5 e un quarto era, perché alle 5 e mezza ero già a lavoro, io avevo cambiato quelli che escono alle 6, no, che hanno fatto il mio turno, e era quello là lì, no, vai, già capita, e ci capita spesso lì? Ma lì no, io di solito partico al bar della Marinella, la mattina verso le 5 e un quarto di mattina, partivo sempre lì. Ieri perché c'era un mio collega che mi ha chiamato al telefono, perché io ho fatto la moto, no? La mattina, e sono uscito ieri mattina. E mi ha telefonato il mio collega alle 5, alle 4 e mezza, di farmi trovare lì a fare colazione. Controlla questo segnale un attimino, quanto ti sto arrivando? Capa, qua si sera. Ok, Gianni, anche tu controlla come se non avete attaccato l'altro simile di questo qua, dell'altra marca, dai. Sono stati più valenti come funzionalità, ecco, io dico così, ecco. Ma qui lo che come tua antenna? 9.15, sì. Cazzo, sta arrivando fortissimo. Vabbè, è l'apparecchio che è. Meglio. Almeno non rischiamo di non sentirci. Ok, ci sono, dai. Questa è l'altra radio, è l'altro apparecchio. Non so come sta uscendo di radio questo qua, ma già dovrebbe essere buono. Questo, guarda, di segnale mi sta arrivando bene, la radio mi sembra migliorata. È diversa questa qua, vero? È migliore questa? Guarda qua, adesso posso anche aumentare un po' il filo, vedi ancora di più. Come la senti? Più chiaro. È più chiara come radio, diciamo. Molto chiara come radio, molto pulita. Basta che rimane un po', diciamo, troppo potente, forse se l'ascolta un po' la potenza. Eia, no, dai, diciamo, questa è più chiara, quella è più robusta, più corposa, la classica del Kenwood, quella lì. Questa Yaesu è tutta un'altra cosa, sempre con microfono a tavola professionale. Che microfono stai usando con questo? Questo è l'MD200. Molto bene. Si sente molto bene. Anche qua, io lo ascolto benissimo adesso. Sì, Gianlu, me ne ero accorto che stavi usando l'MC60. Ma deve essere che sta facendo qualche... sta rompendo le scatole, questo tappino, credo, l'ha detto, adesso domani lo pulisco, dai. Levo questo tappo d'alluminio che c'è sotto, disputa appena le cose dei contatti lì, le faccio fare un po' di gioco e vediamo un po'. Ok, questa la possiamo anche spegnere, l'abbiamo fatta camminare senza di troppo, ma oggi usiamo anche un po' questo qua, dai. Questo è lo stesso, è le 757 GX2. Lui, ma spruzzare prima l'aria, perché sennò si impasta. Sì, lo soffio, lo porto giù in magazzino col compressore a bassa pressione, se no fascia di... se li stacca in via, poi il secondo dove si staccano non sa neanche dove sono usciti. No, ma non quelle bombolette, non ne hai, quelle bombolette per pulire anche la tastiera del computer, eccetera. Le bombolette d'aria. Spruzzi appena quella di quella lì e poi gli metti lo spray e vai un bombo. Anche quelle lì, sì, no, quelli non ce l'ho la bomboletta, la verità. C'ho un presidio, c'ho un coso. Aspettate, io non l'ho visto proprio la prima volta qua. Allora, ti aspetto, una bomboletta è... di diavolo decida, va. Una bomboletta, non è la cassetta qua. Allora, si chiama luogo detergente del contatto e tuner, speciale detergente a secco per contatti di tuner. Questo lo usano per i computer. Esatto, sì. E anche l'aria separata più il prodotto che si mette. Beh, magari quello è tutto in uno, va. Sì, dopo non è assolvente questo qua, più corrosivo. C'ha un odore che sembra un alcol già. Adesso non ce l'avevo la pompettina, perché l'ho persa, quella cannuccia rossa che si mette nel coso, no? Adesso devo buttare un po' così, cioè... Un bel doviago vai con questo di coso. L'avevo preso da quelli dove vendono computer, mi da Massimiliano, che c'è giù nel corso, lì, in via Sassari. Ed è specifico perché non è prepotente come prodotto, come antiossidante, antiasbloccante, non è come il CRC normale, io ho anche il CRC quello marino, quello per i contatti, però secondo dove lo usi rischi di fare danno invece di pulire o di riavvivare i contatti, capito? Perché è molto corrosivo, molto aggressivo come solvente. Pulisci i contatti, che si chiama, della Keppe. Non è coso come si... Ah, ecco, guarda. Prodotto contratto specifico per sgrassare e pulire tutti i contratti elettrici adatto per gruppi UHF e VHF, componenti elettronici di genere e micromeccanismi di elevata precisione. Non lascia residuo alcuno, non corrode, non ossida le parti trattate, capito? Sì, sì, sì, sì. Capito, ma è a secco, dico la secco, dai. Proprio non ti lascia roba oleosa, non ho capito. Pulisce e poi si asciuga, ho capito qual è. Dopo che stiamo a GBC una volta, capito, ma da durato, quello che ungi tutto che non esce, fa caridare, mi ha fatto un casino, devo tutto asciugare, fa. Io l'ho detto, ma te non avevo capito, pensavo che andasse bene quello. Questo qua lo stesso sono me. Mi ricordo che avevo preso Limi da Massimiliano, che lui ce l'ha giustamente per i contatti dei computer, e va molto bene. Adesso vediamo, lo sto facendo a giro un pochettino, adesso lo sto anche muovendo, dopo lo rimettiamo in moto, vediamo cosa dice, se no domani si smonta e si pulisce col compressore prima, magari se è andata a finire qualche cosa di quella lana, di cosa gli si fa, di si ballottolini di lana, che così non si infatti, polvere, basta, avanti, fra. Capo. Quelli, se sbagli, quelli lì li usano tutto quanto, quelli lì sono roba oleosa proprio, che non finisce più. Fatto io una volta, per carità, quello che stai dicendo tu, già, quello lì non serve a niente. Infatti ci vuole quello che si asciuga, quello a secco. Beh, comunque una volta vi dico una cosa, avevo un microfono che mi dava problemi, non usciva. E io l'ho smontato e l'ho pulito con l'aria tutto quanto, poi gli ho messo lo spray per contatti. Anzi, mi faceva lo stesso difetto, non mi toglieva il difetto. Ho provato, gli ho messo un po' di CRC, cazzo, non l'ha più fatto. Perché le CRC lucido se lo mangia, capito? Si mangia, se c'è qualcosa ossidato se la mangia, se secondo me la c'è in mezzo lo sciuglie e lo butta via. Tante volte il CRC è migliore di questo spray, solo che è troppo aggressivo, magari messo in certe parti non va bene, ma secondo le cose che ingranaggi, tutti cose del genere, è micidiale come prodotto. Io Gianluca, ti ripeto, di quello spray di me ne avevo comprato due o tre franconi. E l'usare che era di lasciare un remo, andava a trattarlo per andare giù per il bimbo e non funzionava più, l'aria aveva perso. No, di chi si spray della CRC proprio CRC? Devo prendere quello, secondo cosa, quello marino, che va bene anche per i bulloni, queste cose qua, però lo può utilizzare anche per cose, componenti elettrici, qualche contatto, qualche tasto, un potenziometro, che fa e non fa, capito? E via dicendo. Però di usarlo su dove ci sono schede, queste cose qui, io secondo me non lo sconsiglio, se vuole fare quel prodotto proprio specifico dove sono questi microcomponenti, se così sì, se non è aggressivo. Dopo c'è anche quell'altro, quello VD, mi sembra, VD40, se ne chiama VD40, bomboletta blu con la scritta gialla, lì c'è una gandonata, lì sopra ingranaggi e cose del genere, è spettacolare, lo svitol famoso, intramontabile, cavolo, lo svitol è una cosa, da sempre esiste, è sempre buono, sempre per cose però di grosse entità, bulloni, cose del genere, cose più per la meccanica che per l'elettronica. Sì, sì, sì. Anche io uso quello, già lui, il CRC, 66. Sì, 66, ce l'ho giù adesso, mi guarda, ce l'ho giù in garage. Ah, c'è una bombolettina, in proporzione costava più quella piccolina che quella da, se mi ricordo il contenuto di quella, la standard, la bomboletta standard, quella lì, c'è la camicetta rossa per entrare dentro il buco, lo uso anche per le serrature, sai che cose così, quello è fenomenale. Sì. Vabbè, ma per ogni cosa bisogna stare attenti perché, per appunto, secondo cosa ci sono i specifici prodotti, se no rischi di fare danno. utile. Si amplificare che cosa, Serati? Vabbè, quando le cose non si sanno, uno si avventureggia, sai. Invece è sempre meglio chiedere anche nei negozi, nelle cose, farsi dare qualche ragguaglio, qualche dritta, perché sennò è un casino. Ok, dai, si capiteggia quando fuori da cosa vuol dire macchina, me la capiteggia. E ne buchiamo un coso per fuori. Bravo, porcarezza. Qua qui vedo, arriviamo un bucaretto lungo, così vedi, dopo che scende di lavoro, ho preso, c'è l'effetto reale, l'avevo già fatto, capito? Da adesso basta dormirlo. Ma non si può fare, è camuffata lui. Ma come ho sparato anche i politici con quella lì? Ah, vabbè, ma questa qui non la puoi fare perché sono in antimonio, capito già? E l'antimonio non esiste, se sono prodotti diversi quelle là che usano per fare altre cose, capito? L'acciaio è un'altra cosa, sono lavorati con delle, dentro c'ha le linee elettrose oppure quella lì ti va in mano a matte. No, però puoi fare quello coso lì per fare l'effetto tipo che vede la fiammata fuori, no? Capito? Tutto lì. Io da sopra mi ammanna intanto. Sì, ma Gianluca, se c'è la ciappa di senza lungo sul ruglio, si può venire in dritto. Sì, ma infatti tu glielo fai che si può mettere, oh vabbè, quello è già una speretta, quella è già una speretta, già un'altra cosa, quello già è vero. Sì, già la fa anche da lì comunque appena, già la notte, di notte si vede, si vede anche il fumo. Quasi poco. Io ho avuto rabboni in Ovilunga, l'altro a Chiavello. Ma lì con la spada di un fiago, mamma mia, in testa va tutta la zona. E sono le polveri quelle lì. Le polveri sono. E come ho fatto di buttare di così. Adesso domani, ma. Mi sembra che quest'anno poca roba si fa a me. Se la gente è arrabbiata in questo travaglio, altro di divertimento, Lo so, ma un attimino di cosa, di dispersione la testa, non lo vuoi avere, Gianluca. Tanto devi fare sempre a pensare in così frei, non fai nulla. Avanti, Fra. Ecco, è quello che è vero, anche quello ci vuole. Ogni tanto, una volta all'anno lo fai, non che anche guarda che anche la gente se non c'è, non sta lavorando, ci sono gente che li riprende e quelle che non le prendono, va bene, perché hanno paura anche di altre cose, di quelle buone. Tu vedi a Sassa lì, è tutto pieno di bancarella. È un casino, va. Davanti al palazzo di mia suocera c'abita le napoletane, quando noi andavamo a Capodanno lì, faceva il Capodanno lì. Dove è questo palazzo? Pari a Bidia di Fuoco, mentre si allunga, c'è tutta l'opulia, mille fuochi artificiali, vasiani, ma qua, da Napoli tutto c'è come tradizione, ci vedevi il palazzo tutto illuminato, tutto dato, caso di con le fosforescenti di Giorgio, con la pistola lancia a razzi, pettate, di tutto va via, una cosa, come si chiama? Una polveriera. Sì, me ne ha portato quei paesi così, li puoi mancare tutta paesa, tranne che lo coso, come si chiama? La Bolognetto va a andare a vedere lo stadio Napoli e lo veniamo a fa botte. Dove le può mancare, ma lì se cosa non deve mancare. Sì, ci sono proprio fanatici queste cose qua. Sì, ogni anno a Napoli ci sono morti, feriti e cose, perché non stanno manco attenti, usano petardi che non sono col permesso c'è, eccetera, eccetera. No, io dico sempre una cosa, io lo sai che ho fatto per tanti anni servizio ambulanza e mi ricordo che quando facevo più un capodanno, per più di un anno abbiamo portato gente ferita, le dita, addirittura una volta addirittura questo qua si è buccato la mano, lui dice che ha usato una pistola lanciarrasi, ma una pistola di quelle a salve, pistola non ne abbiamo trovato con la polizia in casa, sicuramente è stato pistola a vera, infatti ci ha chiamato via telefono, cerca di controllare l'ambulanza se avevamo scattalino, tipo cosa, perché ci aveva un buco nella mano, non si capisce come si abbia fatto tutte le scale piene di sangue, un casino. Infatti, no, vabbè, ma molte cose succedono appunto perché c'è comunque se giudendo il gruppo oppure come ti dice che fanno questi pirotecnici che fanno gli artificieri che costruiscono i fuochi proprio gli artifici produttivi, ma lo sai che hanno preparazione con tutti i suoi esperti, i suoi mestiere, tanto le buone colpi pure di chi sa niente, non c'è da scherzare, no. La maggior ragione di questi che si avventureggiano i rifatti di artigiano, le mette in casa, o per cipolle, che cose così, candelotti, tutto combinano, fontane, fontanelle, specialmente sono cose che non fate nel botto, no? Che non comprimono, che non scoppiano, queste cose che sfogano così con le scintille, quelle cose sono anche belline a vedere, ma il buon rischio è solamente magari che tipo sia così appena appena bruciato quando la piazza in vendita, magari che pigli la quando stai facendo l'innesco, no? che la stai attivando, ecco, ma una cosa è fare una puntata, una cosa è gatto e fate la fiammata voi e andare a copiare. Io ti dico una cosa, stanno a Natale, stavo consegnando cisti a Sassari e stavo solo nel campanile in un palazzo dove c'era praticamente un cancello con l'androne per entrare prima di arrivare al portone. Visto questi ragazzi che se ne stavano andando tranquillamente, ma non ci ho fatto caso, cazzo. Un po' come mi viene un infarto, cazzo, sento questa esplosione, ma era una cosa assordante. Ma una bomba, ti sono dicendo e mi sono assustato brutto in voce. E sicuramente l'hai scoppiato dove sono un malato. Via per me! Allora, tretto di là di buccio. Via per me! E sai chi erano? Sì, guarda che vuoi entrare. Gianluca, va. Ma te a me, ma chi c'è qua? Cosa brava. Cosa, una femmina anziana? Ehi, cacciano, cacciano! Uia, uia, uia. Allora, lì già, chi sei? Il figlio di Torre, quello che c'ha il coso dei panini via Pasqua. Capito? Sì. Appaga, appaga. Dottore si è messo a ridere, si tu fuori crepato dalle risate, tra la caglia tua. Allora, mamma c'è ancora qua. Perché non ci fu? No, per noi non si lavora. Non si lavora. Ah, si lavora lo stesso. Ma che si no fuci. Non potete buscare travagliano. Ciao lui. Domani cosa fai? Travaglio già. Domani è Siria, perché dovrei riposare domani sera e c'è il ventaglio, non lo so se mi trattengo. Ecco, avanti Franco. Ehi capo, già finisce a prendere l'inventario, già, preoccupato. Quello è niente, guarda che è a Napoli lì, fai da te quelle cose lì. I punti sono fatti da te, perché se le costruiscono loro per non pagare. Il punto artigianale, quello che le ho detto, sono roba fatta grande sfida, anni. Ho bombe praticamente, chi si ti odio, chi si può in Maradona, anche quella che ha lo scoppietto dentro quel palazzo, cosa ha fatto un fuoco di allù, meglio una pistola. Guarda che, Ugia, guarda che l'ultima che hanno fatto vedere di Napoli, eh? Il cui interno ha messo un barazzo. Quest'anno hanno sequestrato, prima di Natale hanno sequestrato a Napoli, hanno fatto vedere che hanno sequestrato un magazzino, ne hanno sequestrato. E veniva uno, ha detto che il cui pure l'angolo di un barazzo. Io mi ricordo che una di quelle cipolle l'avevano messa dentro un tombino e il ragazzo fino a casa mi butta dentro un tombino, ha detto il tombino brinchè e dice da tutte le bavure. Io, Luca, si carica bene, ti assalta. Avanti Gianni. Ma non sei più là da manco in lei. Via. Luca, avanti. Via. Via, mamma mia. E cazzi pure il cazzo. No, lo spedetto non sta cadendo acqua qua. Madonna santa. Ce la metto di scatola, guarda. Allora, alle 7:30 non c'è più acqua, di acqua. Voi meno male avete la cosa, no? Se vado tu, giusto? L'autoclave, là. Sì, abbiamo l'autoclave, ma se l'autoclave puoi smettere di esserci l'acqua nell'autoclave, non ne abbiamo manco. Beh, ma comunque noi non ce ne accorgiamo, è di un po' diverso, va. Perché tanto la focale svoltata ci vuole un bel. Sì, ma da poco abbiamo dovuto cambiare tutti e due i motori, 140 euro mi pare a testa, c'è toccato. Luca, eia. Ehi capo, no a te, no, Gianluca, a Luca. Luca, ma l'acqua la notte la stiamo dando, eh? No, qua la sassa di no. No, noi di giorno non ce l'abbiamo, ne abbiamo un filino. E adesso è arrivato, infatti mi sto riempiendo il sabato io adesso io. Che casino, eh? Che è la cosa? Arrivo apposta? Ma lasciami la frutta io. Vabbè. E la fa serve, per ci viene tra in bagno, qualsiasi cosa, eh? Quello qua mi sono attrezzato di, come si chiama? Del, la cucchina, meno male te pulisci le mani, non vai, ma non viene, boh, cosa fai? A t'ammazzi. Le provviste. Bravo però, eh. Che qua la notte la stanno là. Avanti Gianluca. Via. Ma perché problemi di distribuzione ci sono lì da voi? Ma perché la stanno parlando più a Franco? Capo. Gianluca, te lo mando adesso, avanti. Ehi, stavo dicendo, guarda, ci sono problemi di distribuzione. Ehi, capo, problemi. Ma non solo qua, Sassari, mi sembra che sono nuovi paesi. Sicuramente perché stanno facendo reti idriche nuove, stanno aggiustando magari ripristinando la rete idrica. Ehi, sicuramente è così. Avanti, Gio. Ho due fascette. Ogni tanto quest'acqua o non si può bere o manca, oppure c'è roba marrone dal rubinetto, ma che muoveva, una volta sono andato a farmi il bagno e ho detto ma mi lavo o mi sporco con questa cosa, tanto c'è l'acqua marrone. Ma è potabile però già. Sì, che si lavi chi ha niente. Ma io vabbè, da per dire la verità, non lo so, comunque sia, una situazione così in questi ultimi periodi, non so se l'hai vista, anche qua a Porto Torres, se era meno una di noi in giornale, di gente appunto, ma pure qua da noi, io la mattina presto una volta riempiendo l'acqua del bidet, non voleva vita, ho detto ma come ti fate? No, io comunque sia, no, né per berla e neanche per cucinare, guarda, non saranno i ghisti di 17 centesimi alla lì e un pulla leva per cucinare la minestra per fare la pasta, che per il resto la usi per l'uso personale, ecco, di così pulizia del corpo, delle cose, ma parlava per dirti un poco di virgola, un poco di cosa, siamo trattati di pulli di leva, sto compiendo 12 gasce a ghezza, 12 casse di acqua da 2 litri alla settimana. E tutti stanno facendo così già lui, tutti quanti. Stanno prendendo tutti acqua nuova perché la usano anche per cucinare, per fare il caffè, eccetera, eccetera. A chi non si deve non sono più tranquilli, c'è stata gente che ha avuto la gastroenterite dall'acqua che ha bevuto, capito? C'è gente che è andata, che è stata irritata, non so, a riputi. Mi stava dicendo Giulio che c'è stata della gente che praticamente facendosi il bagno l'ha irritato tutto quanto, è dovuto andare a ricorrere al pronto soccorso perché era tutta pulita, brugole. Buonasera. Che lì? Buonasera, avanti. Buonasera a tutti e buon anno, eh. auguri a tutte le famiglie delle persone che mudrano ogni sera qui in 27. Contraccambiati gli auguri al 100% anche da parte nostra. Avanti col nome in attivo, perché non siamo riusciti a capire chi sia, perlomeno io non ho capito. Ciao, sono qua per cantare auguri, è buon anno. Ok, ciao già Giovanni, sono Vinci. Sono entrato per darvi gli auguri appositamente, quindi adesso vi lascio continuare a chiacchierare. Niente, mi raccomando, non mangiate e non bevete tanto perché poi vi si gonfia il pancino. Ciao Gianni, riprendi. Ciao Giovanni, già te avevo riconosciuto, stavo scherzando. Ciao, ben sentito anche a te, se ti vuoi trattenere a fare salotto, stavamo parlando del più del meno. Vabbè, ma io sono un po' già, sono un po' non scanziato, un po' così, perché poi già sai, no? Che lavoro faccio, sono appesantito, veramente stanco e niente, mi sarei fermato, però quando è così è meglio che continui a leggere i miei schemi elettrici, un proseguimento già. Ok dai, se è così, è lavorata anche oggi allora. Se è così già, ti auguro buonanotte allora, e buon fine anno e buon inizio dell'anno nuovo. Avanti di nuovo Franco e poi Fagina. Ciao Giovanni, ben ascoltato, salutore. E guarda, buon fine anno allora e buon inizio anno. Ha passato, speriamo sempre che sia migliore il prossimo. Avanti Gianluca. Auguroni, grazie, sei in famiglia, da ci sentiamo allora, tutto lì. E niente, ma Gianni dice che stava scherzando, ma Gianni secondo me non l'aveva riconosciuto poi. No, l'avevo riconosciuto, se non te l'avrei detto. Già l'avevo riconosciuto, ho fatto finta di non riconoscere. Proprio io, ma no, io già lo riconosco, ora sto facendo l'orecchio alla sua voce, ecco là. Dottorino, dai, tiri, dai. Come ti sta arrivando Giovanni da te? Chiuso, a sonno. Ah, già chiuso allora, a posto, dai. Sarà un'altra volta allora. Avanti Franco. Ecco, guarda che Gianni Giaguaro è irriconoscibile. Allora, tutto questo modo di parlare, tutto pacifico, tranquillo. Mi capo sempre stato... la modulazione sua è quella. E come la nostra, sempre, non cambia mai, sempre la nostra. Vero Luca? Non siamo noi Giovanni e Calmo, io lo stavo ascoltando. Vabbè... diciamo che anche la parlantina stava spiegando un po' di elettronica e lui è bravo, cacchio, lui veramente è bravo, ha studiato, a me piace un sacco l'elettronica, Gianni, un sacco, so che per fare un corso ci vogliono dei soldi e non pochi. Adesso se riesco io a rientrare al comune, vi faccio un corso di informatica già, vediamo un po' cosa riesco, perché ho un evento, lavoro, ma se no non si va avanti. Vabbè, mio padre diceva prendi l'arte e mettila da parte, poi al momento giusto la tu li fuggi. Infatti, comunque già, diciamo nel mio piccolo sto dicendo... per inserirmi un po' nell'informatica, che mi piace, comunque metto, smonto, pulisco, piazzo, poi sai cos'è, la gente non paga, è quello, e di mai adesso di tirare il computer, di fare pulizie, no, anche degli smonti, di pulire la mezza, che di 20-30 euro ti ce l'è troppo. Dice preferisco portare la tecnica, ne pago 50, no, senti come ragionano le persone. Però con un tecnico, non sta facendo uno che non è pratico. Ma se tu ti ragioni già gli enti, portare la tecnica non è problema. Ciao, e invece grazie. Purtroppo è così. Molta gente ragiona così, c'è il tecnico che fa il lavoro, però poi c'è la garanzia, capito? Isso è. Ma quale garanzia? Ma quale? Per pulire una cosa ci vuole una garanzia, Gianni. Per fare le pulizie al computer ci vuole una garanzia. Già, allora adesso ti faccio un esempio. L'altro giorno ho portato la macchina a fare il tagliando al rifornitore. Dovevo cambiare l'olio, le candele e il filtro dell'aria e il filtro dell'olio. Beh, alza la macchina e mi dice, questa macchina, no, ne ha tolto prima il filtro dell'aria. È presente che il filtro dell'aria c'è il bocchettone che è collegato al motore e cose. Come ha mosso quello? Mi ha spaccato praticamente, che è una cazzata cambiare l'olio, il filtro e cose, mi ha spaccato l'ugello che è praticamente quello ricurvo in plastica che fa entrare il liquido del radiatore. Beh, cazzo tutti i liquidi, c'è questa macchina per il liquido, no caro mio, guarda io ti faccio vedere, sono andato infatti in macchina, guarda se vedi una goccia di liquido, questo l'ha rotto tu. E me l'ha spaccato all'interno, quindi cazzo ha dovuto fare un lavoraccio, cercare di togliere la parte di plastica che era entrata dentro, tutto quanto, poi il pezzo non si trovava, è dovuto andare in moto da un amico che fa il meccanico, meno male ce l'aveva, invece che plastica in ferro, e gli ha dovuto fare di nuovo il filo, tutto quanto per rimetterlo. Cioè praticamente stava dicendo quello che mi ha fatto lui, giusto? Ma lui praticamente poi l'ha messa e te mi ha spiegato quel mio amico che è meccanico che come ho spostato il tubo, come ho tirato il tubo, ho tirato anche quell'ugello che era in plastica, magari come era caldo si è spezzato, capito? E bisogna stare attenti quando fai questi lavori. Era una fesseria per dire già lui, tu magari smontando un computer, quello che ti voglio dire, che può succedere qualsiasi cosa, magari si rompe un pezzo, una cosa e... È quello che c'è, capito? Diventa una cosa facile, se è un po' di sfiga, capito? Ti si rompe qualcosa. Cazzo, sono stato un'ora lì aspettando, poi il padrone del rifornitore, ma ci possono succedere queste cose? Ho capito, io non sono incazzato perché è successo, sono incazzato perché ha detto che non era lui, mi sono incazzato. Cazzo, se la macchina è arrivata qua, non c'era più di te né niente, di colpo mi fa di liquidare il radiatore, ma a fiuti, baromigiare o lui, non a gocce, la fiuti. Sto provando un'altra radio con la frantenna, com'è più basso come segnale già? Più basso, ma se ti sento lo stesso anche la radio è molto diversa. Dico, più basso la radio com'è invece? La radio è diversa, è migliore l'altra. L'altra è la migliore, questo fa il male però, attenzione, questo fa il male, là. Io sto così per farlo andare anche così, questa radiolina qua. Adesso è molto basso, che sembra un microfono originale quello, bene veda, già se non stai attento a queste cose i meccanici dicono quello che vogliono, però se la macchina è tutta perfetta deve uscire perfetto. Ma non era un meccanico, era praticamente una stazione agio. L'ho portata sin lì, non mi perderò un goccio di liquido, niente. Ha spostato, ha tolto il filtro, poi l'ha messa sul ponte, la stava alzando per mettergli il filtro dell'olio e ha cominciato a scendere al rubinetto, poi con tutto il liquido. Perde il liquido questa macchina, no, sta sbagliando, ho detto guardi, io sono venuto con la macchina, ci sarebbe dovuto essere il segno del liquido che perde. Mi sono anche fermato perché stava uscendo un'altra macchina e avrebbe dovuto fare il lago per come stava perdendo. Dice, non lo so, magari si è spezzato, si è spezzato questo coso AL che c'è, che entra nel motore, praticamente va avvitato, non so se ce l'ha preso tempo, poi va attaccata la pompa del radiatore. Ehi, vabbè, da macchina a macchina cambiano quella. E vabbè, il coso della vaschetta del liquido che passa al radiatore, là, quello lì, più o meno sono quasi tutti uguali, tutti interissimi. E vabbè, uno quando sposta, adesso è tutto di plastica. Come li tocchi andare con gli anni, si spezzano quelli. E comunque lui è come attirato per... Lui invece di... Hai visto che c'ha le mollette, non so se la testa è così, del filtro dell'aria. Lui ne ha aperto solo una parte e voleva tenere il filtro senza toglierle tutte. Quindi cosa ha fatto? Ha spostato quelle... praticamente il tubo, diciamo, che c'è nel coso del filtro dell'aria, quel tubo, e a fianco al tubo c'è attaccato quello più fino, ce l'ha presente, e quello lì praticamente l'ha tirato e si è spezzato, se no, perché il motore era caldo probabilmente, ma lui se è uno che lo sa fare, prima ne va a fare a Luzzo, li cambia il filtro dell'olio e poi alla fine quando li cambia quello dell'aria, invece ha fatto lo contrario e è andato da male, infatti stava cambiando le candele, ha montato le candele e ho detto no, aspetta un attimino. Le candele le cambi dopo, quando ha raffreddato il motore, mi spani le cose, le frettature della testata. Capo, quello sì, certo. No, la mia non è così, non è a molletto. La mia devi smontare, è tutto a bolloncino, devi smontare mezzo motore per mettergli il filtro. Fatta vedere, hanno fatto un'altra cazzata, la Peugeot. No, io c'ho l'Astra, se c'è un vecchio. Ed è così, capito? C'ha le mollette e i lati, tac, tac, tac, tac, stacchi e via. E poi togli il filtro. Ma poi quello che mi ha dato più fastidio gli ha detto vai e compra la cosa dell'autoricambio, compra il filtro del... perché non ce l'hanno apposta per arrivare. Cioè tante volte poi restano fermi e quindi non li compro, vado solo quando li ordino. Vai e compra le candele, il filtro dell'aria, il filtro dell'olio. E dice, beh, il pezzo che ha rotto, no, quello non si trova, oh. E cosa vuol dire non si trova? Non capisco cosa sto, bene, devo andare a piedi. No, già vediamo di sistemare, no, non sistemano, già ti cadu, ne era rimasta appena due passate di filettatura e voleva evitare con questa, allora si vede, cassa Billy Ghinnessi da voi, da un cammino, con la pressione che c'ha la cosa, è liquido. Cazzo, quando fa impressione è bricato tutto tanto, ho detto oh, quello io lo voglio nuovo il pezzo io, non lo voglio così. Cazzo, ho dovuto prendere la moto, andare da un amico suo, meno male ce l'aveva il ferro, gli aveva dato proprio il materiale ferroso, non so se fosse ghisa o cosa fu. E gli ha dovuto rifare la filettatura, togliere il pezzo che era rimasto dentro e tutto tanto e fare la filettatura. È importante che l'abbia messo tutto il pezzo filettato tutto dentro che abbiamo messo, e in effetti se è rotto e gli metti il pezzo sino al pezzo che c'è dentro, lì ne esce pure la pressione. E allora vediamola giusta, ma perché mi è giusta, meno buono in lugo, è giusto. E un'altra volta appunto con la macchina a lavare, cazzo, questo qui con un garbo allucinante prende, anzi sposta a sedile, si imposa, anzi ha spostato a sedile senza sedile, si doveva portare indietro, anzi ha alzato la leva per spostare il sedile, tra che rimane la leva in mano, è la nuova la macchina. Ha detto scusa, mi sono incazzato, ha detto prima ancora ti dovevi sedere, perché tu hai tirato così senza sedere, ti dovevi sedere, spostarlo col sedere, alzare la leva per appena spostarlo col sedere, tu invece hai tirato tutta la leva, l'hai spaccata per quella. Adesso tu me la compri nuova, oggi c'è madre, lo prendi in pari per aggiunto, io la macchina l'ho portata nuova qua, la voglio com'era, no, dimmi quanto costa e te lo compro io. Gente che non si riguarda con le cose degli altri. Avanti Luca è andato su. No, Luca ogni tanto va su internet e oramai lo conosciamo, lo dovremmo chiamare fantasma. Oia. E vabbè dai. Adesso sono passato su un'altra zona, dai. Davvero? Faccio la TV, vediamo un po' che giro da c'è. E domani è un'altra giornata, tutto lì. E domani fra lavori? Sì, domani mattina. Entro le 6 vado via, esco alle 2, dai. Da buono, però io già lavoro sia domani che anche il primo. Il primo faccio sia mattina che il pomeriggio, diciamo, di anno. Ehi Gianlu, porta fortuna, chi lavora il primo dell'anno lavora tutto l'anno. Il porto sono ma il porto nuovo oppure il vecchio? Voglio tutte e tre perché ci sono tre scali, no? Ci sono tre denominati così, la Madonnina lì dove ci sono gli atti fondali, il ponente che generalmente dove viene sempre la Sibenia e l'Adri che è del Molinino. Se ti avvicino ormai spendiamo il caffè insieme, alle 2. E voi dovrei passare lì, dentro più tardi, comunque già sono in cima, dai. Da dove c'è da Marco? Sì, passo da Marco lì. Esatto, io di solito vado sempre da lui. Se sono in zona che mi trovo lì, già dovrei passare. Cerco di farmi un salto, dai. Vediamo un po' come siamo messi domani mattina con i preparativi a questo tutorial. Allora, c'è rimasto Gianni e Luca che si è spostato in essere lì, nell'internet. Sono qua al microfono, ne approfitto, vi saluto e se non ci sentiamo buon anno e tante cose belle. Mi raccomando, mangiate poco e bevete tanto soprattutto. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao Gianlu, dai, ci sentiamo, buon anno anche a te famiglia, dai. Se non ci sentiamo, e mangiamo guburu tu. Capo, avanti Gianlu. Ehi, ciao Lu, grazie per tanta te famiglia. Vai, buon anno e buon tutto. Ci sentiamo alle prossime. Avanti campo. Capo, ciao Luca, dai. Se non ci sentiamo, buon anno, buon tutto. Ricordati che le bottiglie si succhiano da sotto e non da sotto. Anche a voi, a vostre famiglie, ciao ciao! Ciao Gianlu, ciao Lu. Gianlu! E gatta! E intanto io, guarda, c'ho la Peugeot nera, la 207 nera c'ho. E se la devi parcheggiare sono dentro. Sì, ok. E lì nella strada, nell'ingresso. E di fronte al bar. Ma non sotto la tettuia. Dipende, a volte ce la metto anche sotto la tettuia. Vediamo, capito, vabbè, c'è troppo il posto, no, io la metto mai lì a chi arrivi nell'ascia, si bonemi e magari viene di andare e tocca a cani figo entrare di gare sta macchina. E gli annisci, di solito a volte la parcheggio sotto, però se non sta piovendo non la metto mai, a volte la metto quando piove. No, io la verità, mi fermo lì perché sotto ci sta stato più tempo necessario appunto di prendere il caffè, ecco, e niente di più. Noi come significa viene arrombato in film, viene ore con il della vita, ci è capitato qualche volta ma raramente, ecco, magari per quel motivo lì, perché è molto trafficato, passeggia col camion, corre molto, adesso viene tutti tanti i barchetti, magari si parcheggia proprio davanti alla pettuglia e se uno deve uscire si blocca tutte le macchine e non può uscire. Allora la metto di fronte, la metto più avanti, dove non c'è appunto dove è libero, dai, dove fai in fretta a uscire. Sì. Ma ora abbiamo fatto, l'ondita, ha visto? Sì, sono le 11:10 subito. Così è Gianni. Ma io c'ho da Lucio, non è gruta. Sei qua da Lucio, tranquillo. Sdraiato. Dal letto, sì, mi ha toccato. Ehi Gianni, va tutti i chili, va. Oh, ti dà bizzi quando ti si blocca, chi è sempre non mattessi loco, ecco. Io là, per esempio, questo che sto usando adesso è nella, appunto dove c'ho il letto, no? Mi posso sdraiare oppure mi posso anche sedere qua normalmente a guardare la TV e c'ho questo baracchinetto qua che sto usando adesso col commutatore e rimane lì e rimane fisso qua nella cosa, diciamo così, nella zona B. E niente, invece Gianni va tutti in piedi, no? Praticamente magari si può salire lì braccioletti però come struttura questa posizione lì è anche molto più grande, più mastodontica come sedia, capito? Tu figurati che c'è anche il poggiolo, il poggiatesta come quelli della macchina, che puoi sollevare e abbassare, tutto in pelle, imbottito, no? Dove appoggi la testa, oltre alla schiena, c'è anche il poggiatesta che sta discendendo, come se una gabbia di bici si sta andando da Ruba ai piedi, no? Quell'altra che ci avevo, appunto, che ho messo a fianco, ce l'ho lì quando viene qualcuno che facciamo qualcosa a mettere, fa qualche cosa al computer, e io si posa lì da manna, e io a fianco ho un'isa di Vavio prima, così vedo come si fa a fare i cosi, e la tengo lì giusto così per discorsa, ecco. Comoda lo stesso, ma non come se gli sta che gioco di gioco via davanti, è un'altra cosa. Ti ripeto, secondo di sì, io mi devo che andavo a provare, no? Metto la zanzariera, abbasso il corpo per non entrare il sole, no? Quando facevo, mi mettevo lì, mi rilassavo, la declinavo appena, vai da. Se ti fidi di drombe, vai da. E che è meglio di lui. Ovvero, e ce l'abbiamo noi in sala, una sedia così. Di quella che praticamente tu ti puoi sdraiare, coricare, si abbassa, si alza, si fa, c'è il poggiapiedi, c'è tutto quanto. Perché quando c'era mio padre vivo l'avevo comprata per lui, capito? Ecco. Sì, io l'ho presa perché avevo abbassata 99 euro, costava 170. L'hanno fatto lo sconto del 30, non mi ricordo quanto era il percento, e avveniva 99 euro. Adesso mi è arrivato il conto, proprio l'altro giorno, l'ho vista da poco, secondo me c'è ancora, ed era 69 euro, addirittura 30 euro in meno ancora, 70 euro, neanche 70 euro, cazzo, proprio un affare. E vabbè, dopo viene comparata se mi si abbascia, no? Avanti, fra dai, riprendi tu. Sì, capo, dai. Guarda, adesso non me ne compro più. Quando mi faccio tutta la cameretta nuova, allora che me la ordino bene, perché ancora, guarda, è un buco adesso. Quando me la ingrandisco, vedo di prenderla quella lì. Almeno mi posso addormentare quando mentre modulo. Davvero che si può un po' così la tana in bianco un pochettino, che c'è una rotta un po' grande, sei un po' stanca quello di tromichini. E allora, infatti è così. Guarda, abbaida Gianni non ha bisogno di cadrega, è già sdraiato. Ma e va, mi ha rilanciato e vi saluto, dai, che è già tardi. Ci sentiamo, se non ci sentiamo, buon anno a tutti e due, a voi famiglia, e alle prossimine, dai, al prossimo anno. Sì, capo, dai, ciao, già, è ricambiato tutto per famiglia, ci ascoltiamo alle prossimine. Buon fine, buon inizio, sperando sempre che sia migliore. Vediamo, ok Gianni, magari... Se vai a lavorare domani, magari, se ce l'hai in macchina, già ci sono anche io in giro, faccio qualche commissione, ripeto, fare un po' di giretti domani, e si organizza qualche cosa per il lavoro, via dicendo. Dai, se capita che ce li rinnoviamo domani, gli auguri, dai, che è meglio sempre a evento, comunque sia. Va bene, già, ci sentiamo, buonanotte, buon tutto. Buonanotte, dai, ci sentiamo. Ciao ciao. Va bene, dai. E allora Gianluca? E niente, Frammi. Io stavo girando un pochettino qua, c'era qualche cosa in televisione. Mi è arrivata a poca, siccome domani mattina non mi alzo presto, ecco, mi alzo quando voglio perché sono di notte. E cosa volevo dire? Guardo, giro, i migliori film li fanno dalle 11 e mezza in poi di notte. È vero, infatti a voi sì, a volte mi riguardo, non sento che ci sono certi film dalle 10 in su, da mezzanotte in su, e come vai da risalente, da dei film non è niente drommita. Ma guarda, sono una cosa veramente impressionante. ma magari sono dei film che magari non sono adatti alla visione di ragazze, comunque sia, ma veramente ci sono dei film bellissimi anche questi, sto guardando uno, l'avevo già visto, ma insomma sviglia un bombo che fa diventare lì. Ho visto che ci sono questi canali nuovi della Rai, tipo Rai Mode, Rai Premium, Rai Gulf, Rai 4 per esempio, no? Che fanno vedere veramente dei film belli, se ne infischiano della media, questi farò sentire questi pubblici film che non mi costretto a vederle come Sky, a pagare in piedi e tutti queste cose in piazza. Da tutti i luoghi non ne di nada, da tutti i luoghi. Prega, no, Sky non ne ho mai fatto io, e non ne farò mai. Sono debuttati. Se prendere quello o per un'altra roba, altro che Sky, non ne frega niente. Sì, danno bei film. Infatti stasera proprio c'era su Rai 9, c'era Bombo, non c'era. Pensavo così, non lo seguivo perché stavo cercando la radio è un film, l'avevo già visto comunque sia. Guarda, fanno veramente, mi piace molto soprattutto Rai 4 proprio una rotta di fuoco, metto di diritto e niente, Rai Premio lo stesso di Rai Premio metto dei bei film. Aspetta, perché sono, sto guardando a Regno il Conte Cassa, non ricordo se sa. Un attimo, dice che non fa già riviste di antichi. E niente, no, Sky, assolutamente. E i calori che vi so in casa è già troppo di sopra pagando il burro che hanno Rai. Ecco, con gli stronzi ce lo fanno pagare, ma ve ne lo pagano io. A voi se non la bisogno manco la Rai, no? C'hanno i punti, chissà come ti verranno i supporti, che a volte è raro che si prenda a punto. Come vai, che ha tutta un'ombra risulta, e da altre parti è provata a chiedere a vedere se è nella zona tua oppure se è così in tutto il paese. Chi se è un'ombra la mia, capita, se è un'ombra la mia allora, che sono più in alto di tutti, allora giù, più in giù non dovrebbe prendere niente. Non lo so, io mi sto chiedendo, non so dove è la tua posizione, insomma, ma a chiedere un po' in giro a vedere come vedono dagli altri. Sicuramente io non stavo vedendo più la televisione, tutto sgrammaticato la vedevo. E dopo poi mezzo di così hanno beccato di tutto il tempo quel televisore lì. Cazzo, non me ne è partito il trasformatore della 12 volt, quello che va all'interno dell'appartamento, no, che si alimenta l'amplificatore dell'antenna. Ma l'ho avviato nuovo qui, sono andato qua. Questi rubidio che era acceso, no, il ballino, la spia del letto che rimaneva acceso. Io tra me e me ho detto, poi c'è acceso, c'era stato sudato, che non si accendeva il letto, allora fa chiuso. E non era proprio visto invece. Accendia, ma non era bruciato. Non diventava l'amplificatore di suo, noi avevo viaggio io di Franchini, visto che un amplificatore nuovo avevo comprato di fuori, quello che tu metti fuori dove stati le antenne, no? E quello che c'era prima c'era un annetto, non era vecchio, no? Ne ho preso un altro, ho visto per quello, più potente, che andiamo così dai, con prestazioni elevate. Invece non era quello, era quello l'alimentatorino del cavolo che era partito. E non si vedeva niente, nessun canale, né Rai, né Mediaset, né niente. Capo, quando non si vede niente allora può essere anche quello, sì, quello sì. No, ma qua si vede tutti i canali, la Rai ogni tanto sgrana e non si vede. Poi gli altri non lo so, non ho chiesto a nessuno se è uguale alla mia, boh. Da me la Rai proprio, Rai 1, Rai 2, Rai 3, sono disgraziato. Lì proprio qua, senza andare tanto lontano, qualcuno che conosci lì proprio nel vicinato, no? Proprio di quell'abitazione che c'è vicino a te, vedere lì a vedere come risulta. No, da me era proprio, sicuramente io non ho mangiato per un fattore proprio di guasto tecnico, più che, ma tu magari gli altri mi stai dicendo che li vedi e non vedi quelle, Meno che non sia l'antenna di Rubrini. Oh, guardate, l'antenna è tutta unica. Ormai le antenne sono uniche. Non c'è più vivo secondo canale. No, io invece tuttora e l'ho cambiato da poco, perché ho preso tipo nuovo. Ho preso l'antenna delle antenne quelle dei privati, che erano lì così, ed è quella che c'ha la griglia e del coso di un mezzo che sta mia portata in secchetta, no? Dopo quella del primo, ho preso quella, la classica antenna che c'è sempre stata. Sempre quella lì, ho due antenne, c'ho io, non ne ho una unica. Ecco, no, io ho comprato questa e mi ha detto, dice, questa qua ti fa primo, secondo, tutti i canali ti fa. Ho cercato tutti i canali, ho preso questa, l'ho piazzata e prendo tutto con questa. Ma no, lo so, prendevi tutto, ma sai perché sto dicendo questo qua? Perché il segnale della RAI, RAI 1, RAI 2, RAI 3, questo caso qui, dai ripetitori da loro, li hanno nuovamente convertiti in VHF, capito? Per quello sto dicendo che ho due antenne io, perché quelle là le prendo in VHF e la RAI la prendo in VHF. Sì, ma se tu metti una antenna VH, è lo stesso. No, può essere, io la verità può essere, ma come se no a me è andato in parato tanto dopo, da poco, non me l'hanno detto a caso, ho visto che lo chiamo meglio giusto, mi hanno fatto degli avvisi, io ti chiedo di fatto. Infatti al netto, se l'avevo già, l'ho pure un'antenna, io ho convinto che erano anche l'antenna, avevo anche sostituito quelle, l'antenna del film, due volte l'ho comprata, la massa che non mi varia. È stato proprio questa occasione del tempo che c'è stato, si è mandato in abbattimento e ci sono stati un bel di danni, ci sono stati qua. Ecco, aspetta, no vabbè, ma questo rivenditore che c'è qua, se lo sono detto così quando sono stato comprato, ma lei tu dice guarda questa ti fa tutto, si fa, ma e io ho detto ma se mi fa tutto ecco, non sono lì a spendere altri soldi, mi prendo questo e ho preso quella lì. Abbiamo piazzato qua bomba, io vedo la televisione che è una cannonata. In fuori della RAI, la RAI ci sono giorni che si prende, qualche giorno, ma poco però, che si prende. Ci sono giorni che non la prende più. Adesso, infatti, volevo, siccome ho visto che c'è un altro tipo di antenna, cioè, che è diversa da questa che c'ho io, cioè che è VEU, quella lì mi sembra che sia, VEU. E vediamo a vedere cos'è, dice che fa il primo, il secondo, il terzo, tutti i canali privati. Ho capito, bravo. Provo magari a passarci a questo qua e ti fai dire come mai. Non ho certe volte ripreso, certe volte non ripresi. Ecco. Va bene, dai, io la valore testa, se no ma la mangiare non me ne piace nemmeno a Ruccio. Vabbè, Gianluca, alle due se passi spediamo un caffè, dai. Ok, Francoli, dai. Se coincide che mi trovo da quella zona, perché ci devo andare, devo spiegare un po' di cose domani mattina e dopo dovrei passare lì. Se siamo in orario ben volentieri, non c'è problema. Ok? Ci sentiamo magari per altri motivi o cose del genere, mi tieni salutato Franco in famiglia, fai un buon augurio, un buon anno e ti auguriamo un anno migliore, dai. È tutto, va bene Francoli, buonanotte. Ok, dai, ti ritiamo gli auguroni al centro e buon anno anche a te. Ci sentiamo tutte le prossime allora, dai. Se al limite se ci vediamo domani. Va bene, se no, attento. Ciao, ciao. Ok, ciao, buonanotte. Ciao, ciao.